Ciao ragazzacci. Buah, che vuoi ti faccia il rutto? Così almeno. Guarda, guarda che più diavoli di voi non ce n'è in radio, per cui state tranquilli e non fate gli angioletti con me, eh. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia. Ma se Berlusconi, vediamo per assurdo, vi dicesse, guarda, io voglio tua moglie, no? Voglio fidanzarmi con tua moglie. Lei, cioè, che no, che fidanzarmi? Voglio andare a letto con sua moglie. Lei che dice? Vabbè, se la moglie ci sta, mica io mi metto di traverso. Ma se mia moglie ci sta, perché no? Non sono geloso perché non lo fa sicuro, ha capito? È perché rispetta le donne, rispetta le famiglie. E non lo farebbe mai. Lui è un vero gentleman. Sono partito da Pescara a 17 anni, il 7 ottobre del 1965, con una valigia di cartone. Nemmeno un cappotto avevo. Era la prima volta che prendevo un treno e per arrivare in stazione mi sono fatto 28 chilometri a piedi. 28 chilometri a piedi. A Chiasso ci hanno fatto scendere, spogliati nudi, controllati i denti come ai cavalli. Noi sani siamo andati di là, gli altri, piangendo, sono tornati indietro. Sani. Con la crema da barba, la menta. Ho fatto i turni di notte, la domenica dalle 6 di sera alle 6 del mattino. Non c'era Pasqua, non c'era Natale. Ero il molleggiato di Emmenbrücke. Ho vinto 3 gare di ballo, mi esibivo con i Mambos of Jamaica. Una sera è arrivato il cameriere. Che succede? La vuole il direttore? Mi licenziano, ho pensato, invece voleva complimentarsi. Vita e opere di Antonio Razzi. Alle 19.35, La Zanzara, Radio 24. No. T'ho fatto la sorpresina, eh? Allora, potremmo fare Vittorio Sermonti legge la biografia. Vittorio Sermonti legge Antonio Razzi. Tu bellissimo. Devi sapere che la fotografia del matrimonio di Razzi, dove Razzi ha quei capelli improbabili insieme con la moglie Jesus, l'uomo con la cravatta lo chiamava, no? Perché dice lui era molto elegante, era considerato molto elegante. Ha avuto sul web, ce lo dirà lui dopo, ma un numero di click impossibile, certo. Ma inimmaginabile, c'è un numero di click pazzesco. Solo la foto del matrimonio di Razzi, tant'è che l'ha chiamato pure il Corriere della Sera per una mega intervista, perché hanno detto è un caso pazzesco. Cioè, ma tu ti rendi conto quest'uomo che cosa ha creato, quale brand ha creato? Sì, no. Quale enorme no, brand Remida, ha creato? Remida, meglio Razzi di piano. Beh, c'è tutta la vita. Ecco, ma questo proprio non c'è dubbio alcuno. Cioè, ti rendi conto, no? Il signor Piano ha fatto una mostra meravigliosa, ma ne parleremo oggi, credo. Ma scusa, a Padova. Ma tu stai scherzando, stai paragonando no, Antonio Razzi a Renzo Piano. Ha fatto una mostra a Padova di cui credo parleremo, noi in uno speciale. Sicuro. La mostra di Renzo Piano. Ma cosa io mi domando al Senato, ma cosa stracazzo ha fatto il signor Piano per adesso, oltre a costruire un atelier nel suo studio al Senato da senatore a vita? Cosa diavolo ha fatto? Proposte di legge, cioè, cosa? Che paese siamo? Cioè, la foto del matrimonio di Razzi è cliccatissima e la mostra di Renzo Piano a Padova non ci va nessuno. Diciamo, no, sono andato. Non ci va nessuno. Io alla Pasquetta sono andato a vedere la mostra di Piano. Fai parte del ceto intellettuale Radical Chic, come ha detto Riccardo da Roma, non è che siamo proprio alla, come dire, alla minoranza della minoranza. Te lo dico d'amico, fatti i cazzi tuoi. E adesso vabbè. Ci vogliamo fare gli affari suoi. È sempre il conduttore? Sì. E il conduttore? Sì, sono il conduttore. La Zanzara, eccoci qui. Renzi, tra l'altro, dice che andrà a trovare Renzo Piano. Ma siamo contenti di questa cosa qui. Andrò a trovare nel suo studio Renzo Piano. Sì. Con calma, eh. Perché non può neanche con muoversi dal suo calma. Studio. Perché con Piano grande non calma. Può muoversi lui, il signor Piano, dal suo studio. Dai, su. Vabbè, comunque un grande Piano. Dai. Andrò a trovare Renzo Piano nel suo studio di senatore a vita. Lui ha fatto uno studio particolarissimo, una cosa molto molto bella che ha fatto nel Palazzo Giustiniani con un gruppo, e ha messo i denari che riceve come senatore a vita a servizio di alcuni ragazzi, di alcuni progetti di ricerca nei primi giorni di maggio. Caro Matteino, anche io sono fiorentino e quando viaggio in giro sento dire che... Ma uno non è che sceglie Renzo Piano per fare il senatore a vita per creare un atelier a Palazzo Giustiniani. Palazzo Giustiniani bisogna chiuderlo! Chiuderlo con la sala cinesca, altro che atelier di Renzo Piano! L'atelier, mi fa impazzire questa cosa! Ho fatto un atelier! Ma è bellissimo! Ma vattene, va, un atelier! Io non è veramente divento pazzo quando sento questa cosa. Andrò a trovare Renzo Piano nel sai che cosa atelier. Ha fatto nel mondo Piano? No, ma sì, lo so benissimo. Allora, andrò a trovare, cioè non è che Renzo Piano che va a trovare Renzi a Palazzo, ecco, è lui che si sposta nell'atelier di Piano. Sì, questo è un po' curioso, su. Effettivamente, oggettivamente curioso. Allora, a proposito di Matteino, di Renzi, qualche milionario dice che 80 euro non sono niente, ieri sera al TG1. Devo dire che questa frase è significativa, eh? È significativa. Cioè, ci sono dei supponenti milionari, adesso non usa questa espressione, degli schizzinosi milionari che criticano gli 80 euro perché non sono mai stati a 1200 euro al mese. Poi oggi c'è una penosa polemica con Di Maio, col vicepresidente della Camera, sullo stipendio, guadagno di più io, guadagno di più te, roba penosa. Gli 80 euro sono quelli che qualche milionario dice: ah, 80 euro, che ci fa uno con 80 euro? Provate a vivere con 1000 euro al mese e dimmi se 80 euro al mese fissi per sempre, non una tantum, fanno o non fanno la differenza, perché chi si permette oggi di dire che 80 euro non fanno niente sono quelli che sono pieni di soldi. Che mi rattristo quando mi viene detto. Adesso, per criticare gli 80 euro, non è che anche un milionario può criticare gli 80 euro se è in buona fede, eh? Anche uno che guadagna tanto può criticare il provvedimento. Beh, non questo... il fatto. Se ti mettono in tasca i soldi, è ovvio che uno può essere contento, ma se te li tolgono da un'altra parte, uno lo può far osservare o no? Oppure è un reato di lesa maestà? No, ma questo sicuro. Però, che sia però, cosa, però critichiamolo per le cose vere, no, non perché dicendo, ti mette in tasca 80 euro. Ma no, ma uno lo può criticare anche per questo. Allora se uno se Achille Lauro regalava la pasta, allora va bene, cioè, ma è un'altra che certo, c'entra capito. Achille Lauro non... per dire, no, cioè se non è che se uno ti mette in tasca 80 euro la poi... storia di questo paese è fatta di presidenti del consiglio che hanno di notte andavano nel conto corrente, ti prendevano i soldini amato, e ti riportavano amato, via sì, scusa sì. La storia del nostro paese è anche invece questa. Lui ora euro. C'è uno che secondo me non è il migliore in assoluto, tutt'altro, non è mio, però è uno che intanto ti dà 80 euro, sputaci sopra a 10 milioni di persone, sputaci sopra come Silvio dai godere, bah. Sputaci sopra. Renzi, Brunetta e Grillo sono dei chiacchieroni. Eri ancora giovane che già partecipavi a trasmissioni del Biscione come adesso e giravi allegro quella le polemiche di Brunetta o quelle di Beppe Grillo sono due facce della stessa medaglia. Loro sono il partito dei chiacchieroni, quelli che si divertono con i comunicati stampa, e noi siamo quelli che facciamo le cose concrete. Per mesi ci hanno detto: non ce la farete. Adesso che i soldi ci sono e gli 80 euro da maggio arriveranno, per sempre, non per maggio, per sempre, la polemica è: eh sì, però si poteva fare meglio. Può darsi, intanto però noi abbiamo iniziato. Mediatica che c'è, mille i proclami, che sorridente tu ci esclami. Baldassarre, Movimento 5 Stelle, in aula è successo un piccolo parapiglia. A un certo punto cita Cettola qualunque con parolaccia annessa. Noi ovviamente non ci scandalizziamo, altri sì. Presidente, tra qualche giorno sarà il 1° maggio, la festa dei lavoratori. Io voglio vederla salire sul palco in piazza San Giovanni. È sicuro della bontà di questo decreto che avete fatto? Se qualcuno le chiederà cosa farà per i lavoratori, abbia il coraggio di citare Cettola qualunque, che diceva: spessatamente, indubbiamente, qualunquemente, una beniamata minchia. Collega, per favore, questo la qualifica, io la richiamo all'ordine. Complimenti per l'educazione che ha dimostrato in quest'aula. Io gli ricordo... Allora, qual è il problema? Citava, la qualunque. Dai, su, adesso non esageriamo. Dai. Sapere chi è che mi sta chiamando in questo momento. Ma digli al di telefono, andare però, serenamente a fare in culo. Chi è? Digli di andare serenamente a fare in culo, scusa. Chi è? Ma possiamo sapere anche noi. Ciao, chi è? Sono alla radio in diretta, amico mio. Mi chiami tra le 7 e le 7 e un quarto, fratello, per cortesia. Chi è? È la Croce Rossa Italiana, grazie. La Croce grazie. Rossa Italiana. Ciao. Ma che vogliono la Croce Rossa perché Italiana? Mi sto occupando dei migranti. Ma ti stai occupando delle solite robe, non per noi, per altri. Perché domani ti racconterò storie di migranti. Non me ne frega niente. Forza Italia ha fallito, Berlusconi sostenga Renzi, lo dice Bondi, ma noi abbiamo il promotore del primo club Dudu. Non ci puoi credere, Parenzo. C'è un signore molto simpatico, tra l'altro, così mi dicono, io non ci ho mai parlato in vita mia, che si chiama Nino Spirlì, omosessuale. Nino Spirlì. Siamo ai fumetti ormai. Autore televisivo, tu non lo conosci perché? Ma che fumetti? È un signore simpaticissimo, numero uno. So, omosessuale eretico. C'è uno di quelli... che c'entra? No, perché uno di quelli che pensa che le lobby gay, i gruppetti radical chic tra gli omosessuali esistano. Nino, come stai? Io benissimo, grazie. Voi come state? Intanto grazie. Grazie. Hai fondato il primo club Dudu, era quasi obbligatorio chiamarti, diciamo. Ti è venuto in mente di creare il primo club Dudu? Perché cioè, una presa in giro. Perché ma a noi... vedi che alla fine tira più un pelo di cane che... Che dillo apertamente qui alla Zanzara, lo puoi dire tranquillamente. Tira più un pelo di cane con pelo di figa, cioè questo volevi dire, no? Vedi? Perché sono giorni che ormai rispondo a questo, insomma, c'è stato un po' di... Ecco, ma perché hai creato il club Dudu? Scusami, io però voglio chiedere. Ma guarda, allora, è una forse è stata un po' una trovata per cominciare a parlare di animalismo giù in Calabria. Di animalismo in Calabria, sì. Io mi sono spostato giù in Calabria ormai da un anno e mezzo, dopo 32 anni di Roma. Sì. E la situazione, insomma, qui non era delle... Non cioè, nel senso che in Calabria i cani li squartano, vuoi dire? Insomma, guarda, non li squartano, però le catene sono sempre dietro l'angolo, cioè le catene per i cani, dici tu. Alle catene, la situazione. Ma tu sei berlusconiano o no? Io? Sei berlusconiano, Nino? Ma certo, e cazzo. Cioè tutta la vita, dici? Beh, tutta la vita no, però per il momento sì, perché no? Io sono berlusconiano di ferro, diciamo la verità. Ma perché ti definisci, Nino, una vecchia checca? Scusa, io Perché ormai a 53 anni cosa vuoi che mi definisca? Un giovane ricchione? No, vabbè, a 53 anni, però a 53 anni... No, i ricchioni invecchiano prima, ragazzi. Dici? Come mai, Nino? Ma perché c'è sempre questa voglia di essere ancora tu, insomma, ti vedi sempre ragazzino. Cioè, perché ne hai fatto di tutti i colori quando eri più giovane, dici, si invecchia prima. Ne ho scritto un libro, per cui, insomma... Scusa, ma è vero che Berlusconi ama molto i gay? Non lo so, però in questo momento i froci a Forza Italia stanno avendo un grande successo, se non... Cioè, veramente, io sento te che hai fondato il primo club Dudu, c'è chi paone che si candida, però poi alla fine non si dichiara nessuno. Ma possibile che non vengano fuori sti froci dentro Forza Italia? Non si sa, guarda, non si riesce a capire, però io ti posso... Ma ce ne sono, secondo te? Sì. A destra ce ne sono sempre stati a tonnellate, dici. Un fottio, secondo me. Però non parlano, non ne hanno mai parlato. Io ti devo dire, già il fatto di avere questo mio spazietto su Il Giornale, quindi unico ricchione di destra, dichiaratamente cattolico, che tutti i giorni può dire dare la propria opinione su un giornale di destra e peraltro senza avere mai avuto bombardamenti, no? Quindi... Vabbè, comunque diciamo la verità, a Berlusconi i gay piacciono tantissimo come persone. Come persona sicuramente, poi per il resto credo che abbia dato prova avuto delle belle donne a fianco. Sì, etero, decisamente etero. Traffico, torniamo subito, Nino Spirlì, promotore del primo club Dudu, avete sentito, autore televisivo, ma soprattutto... Com'è che l'hai definito, Parenzo? Anzi, come si è definito lui? No, come siamo definito lui? Una vecchia checca, lui l'ha detto che... Una vecchia checca. E il conduttore? Primo club Dudu, voi non ci credete, ma è successo in Calabria, Taurianova. Lo ha creato Nino Spirlì. Ma che fa? Berlusconiano, checca, molto checca. Sì. Ma è vero che sei stato pure coi preti? Ma, nel libro ne nomino due, sì, insomma, sì. Pure coi preti? funziona. Ma come guarda, funziona? In che senso funzionano? No, funzionano nel senso che... Pure coi preti, si diceva una volta, no? Pure coi preti! Serve, è una mano verso il paradiso, insomma, è una compagnia verso il paradiso, posso dire che almeno, insomma... Ma scusa, ma in che senso funzionano? Cioè, sono sessualmente quelli che hai incontrato, ovviamente, no? No, sono stati molto bravi, devo dire molto che... Molto bravi? Sì. In che settore? Sapevano dove mettere le mani, insomma, ecco. Ma non è possibile. Nino numero uno assoluto. Ma io non ho capito, ma che fa sto club? Alla fine sarà una come dire, una vulgata, ma è Piero De Froci dentro la chiesa, secondo te? Beh, guarda, credo che ce ne siano abbastanza. Io poi ho scritto ogni tanto, sì, mi piace scrivere anche sul blog. Sì. Ultimamente qui in Calabria ne hanno beccato uno di prete in chat che Froci, faceva? Che chat adescava Froci, sì, con il Don davanti, peraltro. Cioè, non ha cambiato manco nome. Era, che ne so, Don Mario Rossi, adesso non so come si chiamasse, eh? Era un giovane prete della Locride che chattava, andava alla ricerca di bigoli, bigoli gay, sì, con tanto di donne. Che quindi sarebbero i bigoli, non ho capito. Ma insomma, qua roba lì. In quel senso là. No, però in Veneto i bigoli è la pasta. Sì, sì, certo, però nella buona parte delle cose vanno a finire nello stesso posto, guarda. Però io voglio capire una cosa, Nino, tu sostieni, per esempio, come me, tra l'altro, che il reato di omofobia sia una puttanata inaudita. Assolutamente, diciamo. Sì, guarda, no, io perché? Credo che... Ma sì, allora, sì. I razzismi fatelo dire sono... da un Frocio vero, dai. No, ma è vero, ragazzi, dai. Cioè, la stessa parola Frocio, per esempio, la utilizzi tranquillamente, dai, mica in senso dispregiativo, in senso normale. Voi stessi vi chiamate Froce tra di voi, no? La cosa brutta, sai qual è? Che i Froci si chiamano Froci tra di loro, ma se glielo dice un altro si vanno a girare i maroni. Allora c'è qualcosa che non funziona. Allora io mi posso dire Finocchio, però se qualcuno mi dice Finocchio mi incazzo. E allora questo non può funzionare. Beh, sì, dipende come ma perché, detto, perché no? I Froci, ragazzi, di destra come che... perché i Froci di destra come te non sono parlano alla televisione, sentono per esempio Luxuria, sempre il signor Grillini. Luxuria, per esempio, ti piace come o no? Guarda, io l'ho incontrato da vicino una volta sola, abbiamo idee completamente differenti l'uno dall'altro. Ma cosa contesti a questi che stanno sempre in televisione? Ma intanto quello che ho sempre detto, cioè questa intanto un presenzialismo allucinante e poi anche un involgarimento totale dell'omosessualità, perché poi tutti quanti pensano che siamo deficienti come questi qua. Cioè, io credo che sia finito il tempo delle camicie hawaiane per andare ad individuare il ricchione e situazioni di questo genere, e poi invece vado a vedere tutta sta paccottiglia televisiva, ti girano un po' i maroni, su questo non c'è dubbio. Io preferirei che si parlasse di altro, e poi l'omosessualità è una parte di noi, ma non può essere il distintivo, cioè altrimenti... Per cui tu sei anche contrario al matrimonio? Io sono contrario ai matrimoni, al limite, non al limite. Anche all'adozione? Alle adozioni sì, assolutamente contrario. Cioè tu non ti saresti in grado con il tuo compagno di tirare su un bambino? Guarda, una cosa è voler bene a un bambino, una cosa è assicurargli la tranquillità in una società che comunque ancora oggi non è in condizione di poter accettare una situazione del genere. Allora io perché devo andare a caricare sulle spalle di un bambino, oltre allo zaino delle scuole elementari che già gli pesa 25 kg, altri 150 di una mia scelta personale? Io credo che sia un atto di esasperato egoismo da parte di chi invece potrebbe viversela in maniera differente. Nino Spirlì, un mito. Signorini diceva che Dudu è gay, secondo te? Ma guarda, io lo spero per lui, così non si perde buona parte di quello che gira oggi in Italia, perché so cazzi in culo per tutti in questo momento. Come dice professore, adesso non ho capito professore, era una sintesi anche della situazione economica, no, che mai verrebbe utilizzata nella traduzione precedente, non nostra. La sottolineate, no? Via. No, la ripeta un attimo, perché non me la ricordo più. Ma secondo te, Nino, secondo te Dudu è veramente gay? Tu che l'hai visto sicuramente da vicino. Non lo so, i barboncini mi hanno sempre dato un po' una strana impressione. Di effeminatezza, diciamo. Pastori tedeschi al mio fianco, in questo momento, anche se ho un chihuahua che potrebbe sembrare un cane ricchione, poi poveracci sono i più aggressivi in assoluto. Ma forse Italia è un po' frocia come... Forse Italia è forza ed è Italia, quindi ci saranno delle buone percentuali di tutto quanto dentro. Ci sarà, ma perché non vengono mai fuori? Ci sono pochi coming out, caro Nino. Ma perché? Tu pensi che dall'altra parte ce ne siano tanti? Beh, un po' di più, dai. No, dai. Ci sono... Dentro al PD. Dimmi quale ricchione del PD. Vabbè, a voglia, storicamente tutti i ricchioni sono stati candidati nel Partito Democratico. Ma stai a scherzare, ma tu ti rendi conto quello che gli hanno fatto passare i poveri froci da quando si chiamavano Partito Comunista? Ah, quello sì, quello però nel passato. Dai, su, adesso pure, guarda, ci sono pregiudizi pure là, secondo te, ancora? Sì. Ma stai scherzando, ma certo che sì. Vendola non l'ha mai detto, ma si è dovuto fare il suo partito per poter. Senti, ma Berlusconi fisicamente può piacere a un gay, secondo te? No. No, credo di no. Non è il tipo, non è un tipo da gay, eh? No, è comunque un uomo di grande fascino. Io poi l'ho incontrato solo casualmente durante il sito. Insomma, io sono molto amico con alcuni dei suoi parenti, insomma, magari ci incontriamo. La signora Luna Berlusconi, la signora Luna è una veramente per me una. Ma perché non si candida lei? Mettevano un bel nome, Berlusconi Luna sulla scheda, ma come no? No, non si candida Luna, no. Parenzo, che fai? No, ma volevo capire dall'amico Spirlì, che ancora non da cammino Nino. Sì, Nino. La checca, no? Come Nino Strano, te lo ricordi Nino Strano? Sì, come no. Volevo capire, però, ma che cosa fa sto club? Perché l'abbiamo chiamato, perché lui è promotore di sto club Dudu, ma che fa materialmente sto club? No, guarda, materialmente ti dico adesso. Ma tu sei animalista solo, convinto, no? Tu sei un animalista. Guarda, ti giuro, solo due secondi di discorso serio e poi torniamo a fare notte. Qual è due secondi serio? No, allora ti dico, quello che ho trovato qui in Calabria tornandoci era veramente una situazione penosa. Ma di che? Da che di punto di vista? Dal punto di vista dell'assistenza agli animali, eccetera. Ho capito, non è che c'è bisogno di aprire il club Dudu, però. No, ma dai, non è un fatto di club Dudu, sono già 4-5 mesi, no, dall'estate scorsa. Ma quanti iscritti ci sono a sto club Dudu? Ma nessuno. Ma no, ma non è vero. Ci sarà un club, una tessera? C'è una tessera? Allora, sì, e ci sono già i primi 20 tesserati. 20 tesserati? Oh, voglio i nomi. Uno per uno, Nino, uno per uno. Ah, a parte io, ma la tessera... mia madre, mia sorella, l'altra sorella. Dai, sto scherzando. No, ma voglio dire, 20 tesserati, va bene, 20 per adesso. A parte questi. Ma quanti ne hai fatti di queste tessere? No, considera che negli ultimi 3 mesi, già come... Ma non c'era ancora il club Dudu. È un gruppo di animalisti... Abbiamo portato avanti 60 adozioni nella piana di Gioia Tauro, cioè 60 cani. Va bene, però adesso le adozioni di Gioia Tauro non ce ne frega niente. Nino, la cosa che voglio capire è questa. E quante persone si sono iscritte a sto club fino adesso? Nessuno, dai. Siamo 20. 20, benissimo. No, perché pensavo che scherzassi. 20 persone, no, 3 giorni fa, 20 persone, ottimo. Ma la tessera, che cosa c'è? Dudu di fronte stampato, che c'è? Ma no. C'è una tessera, ma no, roba. Ma non c'è una tessera. No, vabbè, ma se devi fare una cosa, falla bene, ma che è una roba da piracottare. Allora, io ho sempre scritto che detesto le tessere. Qualsiasi io non sono mai stato tesserato. Ma gli animali per te cosa sono? Beh, a seconda, sono un ottimo compagno di vita. Se valgono come un uomo? Più di un uomo. Nome e nomo è un'altra cosa. Nome però, nome. Ma tu sei vallo a trovare Parenzo in questo momento. Vallo a trovare un uomo vero. Beh, sono cazzi acidi. No, ma magari, ma il problema è che non sono manco quelli. Cioè, non se ne trova uno a pagar loro. Siamo tutti ricchioni quasi ormai. Dici? È pieno di ricchioni, dici? Beh, un bel po', dai. Un bel po', tutti. Io veramente non li vedo tutti sti ricchioni. Però allora, guarda, io nel mio libro parlo di eterofroci. Sono quelli che si sposano, si fidanzano, però poi una botta di calcetto se la regalano almeno una volta a settimana. Una botta di calcetto, gli eterofroci, questo è il numero uno. Nino Spirlì, grazie, a presto, ti abbraccio. Saluti. Ciao. Sì. È molto effeminato, è un cane, cioè secondo me è gay, io lo sostengo da sempre, è affamato di ribalta, vuole tutte le copertine, cioè quando ha visto Putin non gli pareva vero. Innanzitutto vi saluto a voi e a tutti i telespettatori. È finita in maniera ridicola la vicenda della partita del cuore, là organizzata da Emergency pochi giorni prima delle elezioni europee. Questa ridicola polemica sulla presenza di Renzi e sulla diretta televisiva della Rai, una roba penosa, di bassissimo profilo, diciamo la verità. Non che noi facciamo polemiche alte, ma è una cosa ridicola, dai. Renzi che non può andare a fare la diretta della Rai per una cosa, tra l'altro, concordata mesi prima. Sentiamo Renzi, vai. In questo caso sono molto renziano, in questo caso, Ho spiegato su Facebook perché non giocherò alla partita del cuore. Quindi può tirare tranquillamente Bacia. Si può tirare tranquillamente Roberto. Ale. E su Facebook Renzi spiega che in realtà la partita è stata sporcata dalle polemiche di Grillo e di altre persone, e che lui l'aveva in qualche modo prenotata tempo prima, non certo in vista delle elezioni. Più o meno questa è la sintesi, dai. Molti si sorprendono del fatto che Sandro Grillo, Boldi. Grillo, scusa, dimmi. Ma non poteva giocare anche Grillo anziché rompere le balle? Si mettesse anche lui le scarpe con i tacchetti, si mette a giocare a pallone, dai. I suoi boccoli ben pettinati, si metteva lì a giocare, tanto mandava a fanculo qualcuno, scendesse in campo pure lui, no? Brunetta Gruber, mitologico scontro molto a bello. 8:30. Ma d'altra parte è prevedibile scontro, perché Brunetta dove va litiga? Non c'è dubbio, cioè c'è proprio una missione, un format ormai, sì. Brunetta all'attacco, Brunetta, adesso me lo devo inventare il titolo. Ma questo non è un libro di ma oggi, ma avete guardato tanto lontano. Ma io lo faccio, ma mi scusi, quando lei si è candidata e è stata eletta al Parlamento Europeo, ha guardato lontano, poi si è dimessa e poi se n'è andata. Io sto dicendo che nella vita di ciascuno di noi ci sono i momenti della battaglia e i momenti della riflessione. Questo è il mio momento della riflessione, in cui cerco di guardare lontano per non ingaglioffirmi, come diceva Machiavelli, giocando a trick track tutti i giorni, cosa che io faccio perché devo fare il mio mestiere, l'opposizione a Renzi, a Poletti, però poi, mio Dio, un sano respiro di utopia, un sano respiro di idee per il futuro. Ecco, se lo legga. Certamente me lo leggerò, e comunque le vorrei solo ricordare, come lei spesso ricorda, che io ero candidata al Parlamento Europeo, sono andata via 6 mesi perché prima perché avevo deciso di non ricandidarmi, e quindi mi è stata fatta una proposta di lavoro qui alla 7, me ne sono andata e ho rinunciato alla pensione. Beh, questo giusto è, per lei questo, e per gli spettatori. Però questo non è, adesso questo faccio non vedere è giusto il nei punto confronti di Paolo degli elettori, faccio, però questo non è giusto negli elettori che l'hanno votata, tutto che l'hanno votata ai per miei 5 elettori. Anni. Che piano si avvicina, avvicina. Ho 5 esattamente anni. Spiegato tutto ai miei elettori, compreso che in tempi in cui l'antipolitica non era ancora, diciamo, così vivace come oggi, ho rinunciato. Beh, la politica è una cosa seria, però. La politica è una cosa seria. Quando si assume un impegno, lo si quindi, porta a compimento. Quindi lei, siccome lo sa che io ho lavorato seriamente, non mi faccia questo ma discorso. Ma anche lei lo sa. Quando le si prende un impegno con gli elettori, lo si porta a compimento. Infatti, lo credo di averlo portato a compimento. No, 6 mesi prima no, evidentemente. Assolutamente sì. E assolutamente no. Adesso ve le faccio vedere il sondaggio di Demopolis. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi, ora meno tasse per pensionati e lavoratori autonomi. Replica a Grillo, gli 80 euro sono una presa in giro solo per un comico milionario. La Camera vota la fiducia al decreto lavoro, più semplice l'apprendistato. Il ministro Poletti, ci sono le condizioni per chiudere anche al Senato. Berlusconi a Milano ha firmato per l'affido ai servizi sociali, dalla prossima settimana il lavoro nella struttura per anziani di Cesano Boscone. Il padre del metodo Stamina, Davide Vannoni, indagato con altri 19 per associazione a delinquere e truffa, la procura danni ai pazienti. Ultime ore di vita per la Lucchini di Piombino, l'appello del Papa per gli operai dell'acciaieria, i responsabili non rimangano a braccia incrociate. Scontri a Rio in Brasile dopo il pestaggio a morte di un ballerino da parte della polizia. Favelas in rivolta 50 giorni dai mondiali di calcio. Roma si prepara le cerimonie per i due papi santi. Roncalli e Wojtyla in centro tra statuine e gadget scoppia la febbre da canonizzazione. Diceva che Dudu è gay, secondo te? No, guarda, io lo spero per lui, così non si perde buona parte di quello che gira oggi in Italia, perché so cazzo in culo per tutti in questo momento, voglio dire. Il battutone di Nino Spirlì. Allora, la Mussolini, a proposito della sortita di Bondi, che non mi sorprende per niente perché già più volte Bondi e compagna, Bondi e consorte, Bondi no, consorte no, ma insomma Bondi e la sua compagna, cioè Repetti, avevano sì. Affermato di essere renziani, comunque di confidare molto in Renzi, Renzi nuovo Berlusconi, Renzi che fa delle proposte liberali, per cui questa sua lettera alla stampa di oggi in cui dice Forza Italia ha fallito, Berlusconi sostenga Renzi, in realtà non è una grandissima novità. Però la Mussolini dice: beh, insomma, deve scegliere o lui o il partito, oppure se ne vada, insomma, o sostiene Forza Italia o se ne va. In questo momento si sta col partito, si sta fuori. Cioè, no, no, perché e se no ti fai un danno, e se no è una frusta, è una pugnalata ogni giorno. Fuori onda della moglie di Fede, la signora De Feo, ex senatrice, sì, che del PDL, che dice: avere Toti come consigliere politico sembra di stare su Scherzi a Parte. Certo, tra Emilione Fede e Toti non è che corra buon sangue, si sa, no? È arcinota la cosa. Quindi adesso la signora ci mette il carico da 90. Non si sente benissimo la signora De Feo, però striscia la notizia. Uè, sono sempre io, tu. Oggi vi parlo di un mio amico che come me ha mangiato e tanto nella ciotola di papi, Emilio Fido, che sta uscendo pazzo. Da quando ad Arcole scodinzola Giovanni Toti o Gabib Bianco, Emilio non conta più niente. E allora è scattata la vendetta e Fido Fede ha scatenato la moglie, Diana De Feo, senti qua. Sembra necessario di stare su Scherzi a Parte a vedere Toti, che è il consigliere politico. Hai capito, Diana, che secchiate di frecce ha tirato a Toti, e dire che Emilia a Toti voleva un bene come a un fratello della stessa cucciolata. Ho sognato Bruno Vespa che mi offriva una ragosta, questo è solo l'antipasto, non c'è fumo senza arrosto. Ho sognato Bruno Vespa, scritturava un catechista e suonava la celesta e declamava le sue gesta. Ho sognato Bruno Vespa, mi invitava. Tu lo sai che Fiorello e Bruno Vespa si sono massacrati su Twitter? Lo sai, no? Sì, certo, lo sai, no. Su tutti i giornali. Fiorello ha scritto: no, hanno tolto una serata a Vespa. Se gli avessero tolto un rene avrebbe sofferto di meno. Bruneo, signor Bruneo, non si è fatto a, come dire, non è che l'ha mandata giù, questa roba. Se avessero tolto a te un rene quando hai investito quel poveraccio, avresti fatto una battuta migliore. Un giovedì vale la vita? E devo dire che, insomma, da questo punto di vista, Vespa non è che, insomma, Fiorello non è stato proprio gran, no? Vabbè, ma era una battuta, mi sembra, quella di Fiorello, dai. Tra l'altro, ultimamente, perché è Vespa che tira in ballo l'incidente, sì, accidentale, un po' a sproposito, del signor Fiorello, sì, secondo me sì, dai. Poi morivo. Alla fine di gennaio Fiorello ospitò Vespa all'edicola. Non vi dico chi è. Signori, Bruno Vespa con noi. L'uomo che ha litigato con Pippo Baudo, con Mezza Italia, per quella trasmissione sui 60 anni, quindi lui ormai è in pace solo con quei sei che erano là, che erano ospiti lì, poi con gli altri ha litigato con tutti, ma uno su tutti. Ho fatto io la Rai. Ad una festa infilava una supposta, poi mi dava una batosta. Eccoci qui, 800 24 00 24. Fabio da Roma. Buonasera Fabio. Buonasera anche a te, sei un grande. Dimmi, dai, vai. Ascolta, io non ce l'ho tanto con te, ma per Crevino che sta vicino a te, no? Sì, come al perché solito, vabbè. Buonasera Fabio, buonasera. Se fai radio tu, posso venirci anch'io vengo a Radio 24. Accomodati. Ma accomodati, magari, guarda, se mi fanno il contratto ci vengo subito. Come fai a dire 80 euro so, per gli italiani chissà che cosa sono? Ma beh, che dice, fai, dice, Renzi, dice Renzi che fanno gli schizzinosi solamente i milionari come Grillo. Ma io questa qua è una critica che trovo ridicola. Uno, anche se ha guadagnato un sacco di soldi, non può criticare il fatto che lui mette in busta 80 euro, in busta paga 80 euro a quelli fino a 1500, non ho capito. Ma lui crede di comprarsi voti così? Ma gli italiani non sono stupidi come quel cretino che c'è a fianco a te, capito? Che è un leccaculo di quelli proprio. Senti, ce l'ho io a parlare a fianco a te, guarda. Senti, ma dai, Fabiettino, bravo. Fabiettino. Magari lo Fabiolino. È chiaro Fabione. Che Fabiettino. Ma come fai a dire con 80 euro? Che ce fai? Ma se andato al supermercato a far. Ma è chiaro che non ci fai niente con 80 euro. Allora, ma meglio 80 euro di un carcio per sedere, amico mio. Magari se te parlo così forse capisci, caro Fabio da Roma. Parlami così. Allora parla come te parli. Ma non che lo capisci, Fabio. Quanto guadagni tu innanzitutto? Io 1.300. Ma che cosa sei, impiegato? No, faccio l'autista. L'autista, beh, ma sei l'autista che sei a partita IVA, come sei? No, no, sono autista, sono un semplice autista. Ma posso... sei assunto? Certo, certo. Ma allora riceverai questi 80 euro? Sì, ci famo tanto con te, infatti... Cioè tu stai dicendo, sei uno di quelli che riceverà gli 80 euro e mi stai dicendo non ci faccio un cazzo, giusto? Ma che ci fai? Ma che ci fai? Dimmelo tu, che ci farai con questi 80 euro? Ma che ci fai? Che ci vuoi fare? Ma nemmeno una cena li ci paghi, capito? Beh, oddio, adesso dipende, nemmeno una cena, dipende che cena, dai, su. E che cena? Ma che vado a mangiare da solo? Sono sposato, c'ho moglie e figli, secondo te ci vado da solo, che ci fai? Quanti figli c'hai, scusa? Ce n'ho tre. Dunque, se tu fai una cena, alla fine, proprio in un posto del cavolo, paghi 80 euro per qua, per 5. Ma io ci manderei, coso, l'Aparenzo con me, paga lui. E guarda, io non ho mai visto nessuno... Oh, Fabio, no, scusa, Parenzo, non fare, però, non fare il, quello che prende per il culo, Parenzo. Questo qua, Fabio, è uno che guadagna dall'autista 1200 o 300, quanto guadagna? No, se sta bene così, E ci sta dicendo che con questi 80 euro non ci fa nulla. Okay, rispettalo, rispettalo. Ascoltami, dottor Cruciani, oggi se ti sta bene, siamo nella società, se ti sta bene è così, se no ti dicono il cancello sta lì, vai a fanculo. Capito? Ecco a che punto siamo arrivati. A quanto mi viene a dire 80 euro? Ma che ci fai? Ma è evidente euro? Che sono una mancia, nessuno sostiene. Sì, però... veramente non l'hai detto fino adesso. Vai, non l'hai detto. No, ma ogni tanto è sempre meglio avvedunire in più. Scusami, ma non lo pigliare per il culo con l'accento, che sta facendo un discorso serio. Mica mi capisce, però. Ronda, ronda, ronda, se va bene, ronda. Ma poi invece s'appoggia. Sei ancora a casa? Proprio addosso a me. Spettacolare, spettacolare. Pina Picerno, Maurizio Gasparri. Sulla questione dei morti in mare lì, degli immigrati, no? E Gasparri dice che bisogna bloccare l'operazione Mare Nostrum, giustamente, secondo me. Cioè pare siamo diventati taxi, cioè andiamo a prendere la gente in alto mare e li portiamo qui. Ma via, quale taxi? Via. Taxi per gli immigrati clandestini. Ma che vergogna, guarda. Ma perché che vergogna? Scusa, ma con i morti che ci sono stati, il taxi. Ma per adesso non ci sono morti, in queste ore non ci sono morti. Per fortuna, perché proprio perché li andiamo a prendere quando c'è la situazione di soccorso. Sì, così aumenta, no? Aumentano i barconi. Così aumentano i barconi. No, giovanotto senza cuore. Se uno sa che arriva la marina a prenderli, certo che arrivano i barconi. Ma li vuoi vedere affogare morti nel mare? No, non ho capito. Voglio andare a colpire i barconi, come diceva Luttwak, bombardare i barconi mentre partono. Vuoti. Picerno Gasparri, affondare i barconi quando sono vuoti. Picerno Gasparri. In Libia nessuno controlla più niente, non è che arrivano 600.000, ne possono arrivare anche alcuni milioni. E noi che facciamo? Riprendiamo tutti, con i disoccupati, la crisi, le aziende che chiudono. È una follia, la politica giusta era la nostra, che aveva bloccato gli sbarchi e le partenze. No, i morti in mare, i vivi che rimanevano vivi in Libia. Allora, accogliamo milioni di persone, tutti i cani del sud dove ci sono i disoccupati. Ebbene, digli ai candidati del tuo partito, no, noi dobbiamo bloccare questa vergogna di mare. È una vergogna, la dobbiamo bloccare con lo blocco delle partenze. Allora, la situazione nel mondo negli ultimi 2-3 anni è peggiorata anche per una mancanza di leadership, non c'è nessuno a livello mondiale che riesce a intessere un dialogo. Devono si mettevano d'accordo. Ora una buona notizia. E Putin l'altro giorno ha citato Berlusconi, Renzi e la Mogherini, non sa manco chi sono. Ma per piacere, abbiamo visto le tende di Gheddafi in Allora, brava, la tenda di Gheddafi. Allora, due benissimo. Allora, due giorni di tenda di Gheddafi sono servite a fare gli accordi. Di fare gli accordi per bloccare le partenze dei clandestini. Oggi Roma è piena di tende di nomadi perché novembre è il partito della Picerno. Meglio due giorni di Gheddafi per bloccare i clandestini. Meglio due giorni di Gheddafi per bloccare gli immigrati, dice Gasparri, che è quello che sta facendo adesso il governo con questa operazione. Vabbè. Chi c'era, Fabio? Fabio? Allora, io voglio dire un'ultima cosa che volevo dirti circa un paio di settimane fa. Ma stavi attaccando a Parenzo con questi 80 euro, dai Fabio, non perdere il colpo, dai. Non perdo il colpo, ma io vorrei star lì di persona, capito? Vorrei star lì, cioè? A fianco a te. Hai capito? È quello che io vorrei fargli capire a lui. Io devo stare lì a fianco a te, guardarlo in faccia. Beh, ho capito, perché ma se lui vuole questi 80 euro che non prenderà perché guadagna di più e poi soprattutto perché non è dipendente. Ma lui guadagnerà 25-26 mila euro al mese, lo dico io. Ecco, bravo. Lui guadagna 25, ci avrà 5-6 mutui accesi. Quando che noi ci morimo di fame. Intanto non guadagno proprio per niente 25.000 euro. Devi rispettare questo. Devi rispettare questo signore che guadagna 1.300 euro. E non lo rispetto e come? E con gli 80 euro di Renzi si pulisce il sedere, capito? Ma dai, io posso anche capire che lo considera un argent de poche, una mancia. No, grazie. Merci, monsieur. Lo capisco, probabilmente c'ha anche ragione. Ho detto semplicemente che è meglio, e te parlo di nuovo così, così forse mi capisci, meglio 80 euro in saccoccia in più al mese che in carcere, coglioni. Va bene così? L'hai capito oppure no? Se te parlo così, l'hai capito? Che ci fai? Ci compri la carta igienica? Ci compri il regalino per tua moglie? Ci compri? No, ma lo fai parlare o no? Tu dimmi che cosa ci fai? Dove vivi? Ma lo sa benissimo, anche lo sa benissimo anche lui. Restituiscili. Se è tutto così drammatico, fa sempre tutto schifo. Restituiscili allora. Restituiscili. Restituisci. Io infatti non le voglio perché ne ha presa per il culo, capito? Allora, a proposito, ma la storia là che doveva apparire sulla busta paga, ve l'abbiamo, una cosa che va dato il governo, che fine ha fatto questa cosa qui? Ti ricordi Renzi cosa aveva detto? Io voglio che sulla busta paga sia scritto, ve lo dà il governo, no? Questo è un bonus grazie al governo ottenuto. Che fine ha fatto questa cosa? Ci sarà o non ci sarà? Grazie, io non Fabio. Sono mica il portavoce Giorgio del governo, da Roma, Giorgio. Che mi frega, sono mica portavoce del governo. Pronto? Sì. Dimmi. Luciani, buonasera. Dimmi. Aggiungo pure le mie parole a quelle di prima. Ma lo sai che 100 malati verranno cacciati dal Santa Maria della Pietà perché ma adesso io non troppo mi pare, non mi pare e noi aiutiamo loro 300.000 euro al giorno. Ma chi ce li dà? Ma chi ce li passa? Ma e poi senti, ti dico, guarda, sono uno sfogo insomma da fa. Ma io dico, allora, i campi d'accoglienza chiamiamo i tedeschi a farli, che loro sono bravi, eppure le docce sono bravi a farle, perché li chiamiamo? Ma cosa? Questi? Ma chi dobbiamo chiamare, Giorgio? Sono loro i soldi. Cioè i nazisti, dici te, chi dobbiamo chiamare? No, i tedeschi, sono bravi. Ma io non ho capito, tu dici che chiudono gli ospedali e noi diamo soldi agli immigrati, questa è la storia? Ma le due cose non è che vanno insieme le due cose, cioè. Fresca, sì, vabbè. Tu dici ma sì. Ma quella cosa, quella cavolo de Boldrini, dice pozza a scala grandine, dico io, ma perché non se la pianta? Ma per Boldrini è il presidente della Camera. Ma c'entra lei, c'entra perché, sempre lei, è tutta colpa sua. Perché da quando c'è lei e coso lì e non mi viene la parola. Che succede? Sono aumentati a dismisura, ma andiamo in immiserimento. In immiserimento. Vabbè, Giorgio, grazie. Noi. Ciao. Per danzano come zanzare queste ombre. Marco da Verona. Ciao Giuseppe, ciao. Volevo dirti che. Oh, Berlusconi ha firmato le disposizioni sui servizi sociali, già qualche minuto fa. Allora, Marco, vai. Volevo dirti che, Giuseppe, stai perdendo un po' il tuo fiuto, perché hai intervistato prima una persona che ha aperto una pagina di Facebook e ha fatto in un giorno 20 iscritti, e hai tra le mani una pagina di Facebook che fa 200 iscritti in un giorno. E quale sarebbe, scusa? La pagina di Riccardo da Roma. 200 persone che rappresentano la parte migliore, sana di questo paese, accomunate non dall'odio, perché odio è una parola eccessiva, Parenzo non merita questo, ma dal disprezzo. Beh, disprezzo per il piccolo padovano. Questa è una cosa che tu stai sottovalutando. Stai sottovalutando 200 persone che su Facebook, ti rendi conto? In un giorno hai intervistato prima una persona che ha aperto la pagina Facebook, si vantava di avere 20 contatti in un giorno. Sono nulla rispetto a queste persone accomunate dal sentimento più nobile, che è il disprezzo. Marco da Verona. E allora? Quindi direi che di rispondere a questa cosa intervistando Riccardo costantemente, come è stato già richiesto più volte. Sì, ma grazie Marco, grazie del suggerimento, ma tutta gente che non fa nulla dalla mattina alla sera, sono 200 persone paese, che detto con rispetto per l'autorità civile paese. Non fanno un cazzo, 200 persone. Lei è uno che non fa niente dalla mattina alla sera? Ma sicuro? No, io lavoro 12 ore al giorno, compreso sabato. E hai avuto tempo di iscriverti sì, alla pagina di Riccardo? Non è che ci vuole molto andare su Facebook e ti scrive alla pagina di Riccardo. Bastano 2 minuti, è la passione che ci anima. Cioè la passione. Un sentimento comune. A voi piace, a lei signor Marco, come a questi altri 199 avanguardisti, a voi piace la Weltanschauung del signor Riccardo da Roma? Semplicemente accomunati dal disprezzo, sì, per l'idea di una persona, niente di particolare. Accomunati perfettamente lecito e consentito in democrazia. Quanto mi fa sentire meglio questa cosa di pensare diversamente da lei? Guarda, sto proprio meglio oggi. Perché non si scrive anche lei, Paretta? Magari riesce a fare, sì, qualche commento più intelligente di quelli iscrivo, che fa in radio. Mi scriva una pagina. Vabbè, Marco, ciao. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Ragazzi, voi non ci credete, ma la mitologica fotografia di Antonio Razzi, unito in sposo a Jesus, a Maria Jesus, o Maria Jesus. Adesso almeno pronunciare bene il cognome. No, Maria Jesus, adesso poi ce lo dirà lui come si pronuncia. Beh, ha fatto tantissimi click, tantissime, ma una roba pazzesca sul web, è diventata una cosa virale, è stato paragonato a quello dei Beatles, ma una cosa pazzesca. Senatore Razzi, buonasera, ciao Antonio. Buonasera tutta la redazione, buonasera specialmente a te, caro Giuseppe, e all'amico Davide. Tutta la redazione. Siamo Riccardo Poli. Siamo Laura qui. Martins, allora, dici subito questa cosa qui. Subito questa cosa, Antonio. Ma sta foto del matrimonio, ma dove l'hai tirata fuori? Hai data a quelli di Gente? No, sono venuti loro a fare un'intervista a casa, sì, a Pescara. Sì, sì. E hanno visto questa foto un po'. Beh, sai come tutti i matrimoni, la foto ce l'ha nella camera da letto. Cioè, tu dove ce l'avevi sta foto? In camera da letto? L'avevo lì appesa la camera da letto, perché è un ricordo di famiglia, ci mancherebbe altro. Eh beh, certo, 40 anni fa, fra poco, 40 sono 40 anni. 40 anni fa, e poi è portato, diciamo, discretamente, non è che almeno fino a che c'è la salute. Beh, tu li porti, come dire, non li porti male, come dire, no? Cioè, no, io mi sento come un ragazzino di 20 anni. Per me, io addirittura, ce l'ho 66, ma mi sento come uno di 20 anni. Io non c'ho. Ammazza, e come fai? Dovresti dirla a Berlusconi una cosa del genere? Guarda, ci vuole la buona volontà, sentirsi. Beh, no, ci vuole pure. Beh, sentirsi anche di salute e bene. Devo ringraziare il Signore che momentaneamente di salute sto bene. Tocchiamoci qua dappertutto, qua, facciamo. Bah, ecco, tocchiamo ferro, tocchiamo palle. Tocchiamo le palle, sì, bravo. Come si dice in no, per carità, come si dice in abruzzese? Ci tocchiamo le cuglione, se no, capito? In dialetto tipico abruzzese. Tipico abruzzese. Ecco. Allora, questa foto qui ha fatto veramente il giro del web, Antonio. Cioè, è diventata una roba virale. Come tutte le cose tue, ormai sei diventato una specie di brand, diciamolo tu. Senti un po' un brand, no? Ma guarda, io mi sento sempre Antonio Razzi, io sono sempre uguale. Che brand? Un brand, ma no, sai cosa vuol dire brand? Non è un brand che si beve. Non è brandy. Non è un brandy come in Spagna si dice mi dai un brandy. No, ma il brand è il marchio, ma però. È il marchio. Ma lo sì, sa, sì, Antonio, certo, lo sa. No, non c'è dubbio. Allora, Antonio, però mi devi dire una cosa. La foto ha fatto giro del web, diventato un brand. Quanti click ha fatto? Cioè, oggi ti hanno chiamato dappertutto, no? Oggi mi ha chiamato un giornalista del Corriere della Sera, che sicuramente domani ci sarà l'articolo sul Corriere della Sera, perché sì, mi diceva che verso l'una e mezza c'era 1,5 milioni di click. Un milione e mezzo di click. Un milione e mezzo che hanno cliccato la foto del. E sicuramente adesso ha superato i 2 milioni, perché dall'una e mezzo adesso siamo alle sicuro 2 milioni per 2 milioni di persone che hanno cliccato per vedere la foto di Razzi al matrimonio, cioè la foto di Razzi. Tu ti rendi conto della potenza? Ma perché non gli hai detto a Berlusconi se ti candida alle europee? Veramente un'occasione mancata. Non avevo nessuno interesse, diciamo. Io poi con la tua conoscenza della politica estera, con i rapporti che hai con la Corea, no, con ma la con le lingue, il tedesco lingue, ma no, ma il tedesco, quello a Strasburgo è vicino alla Germania. Hai ragione Giuseppe, il tedesco era vitale a Strasburgo, ma stai scherzando, fanno tutto la, come dire, tutto in Deutsch, allora in Deutsch, almeno sì. Almeno mi ci arrangiavo, ci potevo. Sì. Meglio che al Parlamento italiano, lì parlano solo italiano. Un incontro, caro Razzi. Ma gliel'hai proposto? Orgoglioso che parlo abruzzese. Io quando parlo con Davide, quando mi viene a trovare per mangiare sagna e fasciuna, una volta è successo. Allora ci parlo in dialetto abruzzese. Sei imparato pure Davide Parenzo. Ma lì, Davide Parenzo, così. È lì. Vede che qualche parola di abruzzese l'ha imparato. Giuseppe Cruciani era Superman, no? Sicuramente lo capisce, lo sa, capito? Ma scusa un attimo, Antò, però io voglio dire una cosa, ma gli hai proposto a Berlusconi di candidarti alle elezioni europee o no? No, ma dov'è? Ma io non capisco perché Berlusconi non cioè tu se ti candidavi al centro, al collegio centro, no, circoscrizione centro, Antonio Razzi, piglia, poi non lo facevi il Parlamento europeo, ti dimettevi, tanto che cazzo te ne frega. Ma no, figuriamo, non è che puoi fare il senatore, il parlamentare europeo, poi sono incompatibili. Ma guarda che certo, anche a Milano, A Milano che? A Milano molti mi hanno chiamato da Milano, dice sei il nostro idolo, perché non ti candidi, non ti sei candidato, noi votevamo tutti a te, noi non guardavamo il colore politico, noi votevamo Antonio Razzi, Forza Italia, ecco, questo era anche era bello, però vabbè, niente, non è andata. Adesso acqua passata, non macina più mulino. Che vuol dire? Non l'acqua che guarda passata, il mulino se è passato non può macinare più. Le grandi massime di Antonio Razzi, spettacolare. Allora, i capelli come ce li avevi? Perché sembrano capelli finti in quella foto, Antò. No, sono capelli veri. Ma veramente sono capelli, non è che è un mezzo parrucchino? No, quelle sono almeno l'unica cosa buona che tengo, me lo volete pure levare. I capelli, dici. Sono diventati bianchi adesso, però quello è normale. Adesso sono diventati un po' grigi, però. Ma i capelli è una cosa pazzesca, sembri. Cioè, addirittura coprono le basette, cioè una specie di casco. Lì i baffi me lo sono lasciato quando ero. Sì. Perché il mio idolo a quel tempo era Lucio Battisti. Battisti. E allora che c'entra Battisti? Che c'era? Era un fan di Lucio Battisti. No, fan si dice. Comunque, ma chi se ne frega? L'hai capito, ho capito. Ma uno che fa 2 milioni di click può dire qualunque cosa, chi se ne frega? No? Allora, ecco. E allora, innamorato di Lucio Battisti, mi sono lasciato i baffi e poi anche i capelli. Insomma, così. Ma sti capelli qua, quanto ci mettevi per metterli a posto la mattina? Un casino qua. No, facevo subito. Non sono mica il parrucchiere io. Facevo io tutto da me stesso. Tutto, con la spazzola così asciugavo, ma era enorme, ci voleva un po' di più di tempo. Ma è una specie di casco pazzesco. Ma io quando andavo a giocare a tennis che facevo la doccia, no? E quelli stavano già a bere la birra su al ristorante lì in Svizzera. E io stavo ancora lì a asciugarmi i capelli. Purtroppo io ho troppi capelli. Voi siete teste pelate, è normale che. No, io ce li ho i capelli, Parenzo. No, ma tutti e due ce l'abbiamo. Non dico a voi due, io dico a quelli che giocavano con me, che non avevano i capelli, è chiaro che loro facevano subito. Io c'avevo tutti i capelli da asciugare. No, certo, senti, ma io però sono curioso di una cosa: ma è vero che tu avevi questo taccuino dove annotavi tutte le donne? Sì, purtroppo. Ma ce l'hai ancora sto taccuino? No. Me l'ha strappata mia moglie, appena la trovate babam, me l'ha tutto l'ha buttato distrutto, l'ha bruciato, non so che fine ha fatto. Io sono andato lì, non l'ho trovato più, e dice ma dove, e dico questo, dico mi serviva come souvenir, ricordo, e invece me l'ha strappato, l'ha levato tutto, perché io cioè annotavo, gli davo anche il voto addirittura. Ma è la migliore, chi era? Come si vota oggi per un calciatore che lì gli si dava davi il voto a queste donne, diciamo. Davi il voto, ma anche con le cose, anche con le specialità, che ne so, questa fa bene questo, quest'altro, no? Ma sicuramente. Cioè che mettevi una fa meglio con la bocca, l'altra così, tanto per essere chiari. Tutto normale. Beh, no, tutto normale adesso. Cioè, allora tu hai un taccuino, spiegamola bene, un taccuino dove annotavi. Ma prima che io penso che tutti quanti. Ecco prima perché, ecco tutti quanti mio, no. No, ecco perché il mio scusa sì. Giuseppe, ecco perché il mio matrimonio resiste da 40 anni. Perché tutto quello che io dovevo fare l'ho fatto fino all'età di 26 anni che mi sono sposato. Sì. Da 17 che sono andato in Svizzera fino a 26 non ho combinato di cotte di crudi. In 9 anni quante te ne sei fatte? Che ne so? Non ricordo, non dico centinaia, ma migliaia. Migliaia? No. Migliaia. Ma la più strana qual era? Pure una cinese ho visto qua. Ma sì, tutto quello che capitava anche per riempire la pagina, capito? Belle o brutte, dici te, no? Ma sì, no, beh, no, brutte no. No, brutte. No, quelle che se ne era almeno fisicamente carine. Comunque annotavi pure il voto, il voto più alto chi era? Beh, ce n'erano parecchi, addirittura pure una spagnola. Vabbè, spagnola, moglie. Tua moglie, no, poi. No, mia moglie, un'altra. Un'altra spagnola. Poi cieca, ma quelli ci vedeva. Chi? Come cieca? Cieca. Ah, cieca. Però ci vedevano bene. Della Repubblica cieca, mamma mia, sempre a pensare delle cose pazzesche. Oddio. Comunque, ma tua moglie ti ha preso sto libretto e l'ha strappato? Purtroppo me l'ha strappato, mannaggia. Io me lo... Cioè, ma guarda che sarebbe stato un pezzo, sarebbe stato ormai un pezzo di repertorio. Beh, cioè, io guarda, la Mondadori si contende i diritti con altre case editrici. Generalmente anche me lo rivedevo oggi, la Madonna, sì. Dice, questa qui, questa qua che ha combinato, no? Magari era ricordi quando si potevano fare, quando... Tanto io non ho, tranquillamente, ecco, il mio matrimonio 40 anni. Con bei due figli. Sì. Con bei due nipoti, sono felice e contento, appunto, come non mi sono mai montato la testa anche di quello che succede adesso, 2 milioni di click, 2 milioni di click su internet. Semplice Antonio Razzi. Lo so, Antonio. Infatti questa è la tua forza, è questa qua, eh. Pasta e fagioli. Bravo, così andiamo a Lumelograna quando prima lì al ristorante, sì. Sempre il nome di ristorante. Ma bella magnate, segno e fagioli, belle. Che dopo vedrai che quello che ti dico io è pura verità. Senti una cosa, ma Berlusconi oggi ha firmato per i servizi sociali, hai visto? Sì, ha firmato. Sì, ma io sicuramente. Che ingiustizia, che è un'ingiustizia, sicuro. Ma lui, dall'uomo che è, sì? E dal, diciamo, sicuramente si sarà 4 ore che farà vivere felici e contenti quelli. Dici, ma che farà sti anziani? Quei maturi che sono lì, non anziani. Maturi? Diciamo, quei maturi. Beh, anziani, diciamo, anziani, un po' anzianotti. Ma che farà in queste 4 ore? Si inventerà, se ne inventerà di cotte e di crude anche lui. Ma sicuramente aiuterà, motiverà. Ma a proposito, tutte queste migliaia di donne con cui sei stato, no? Migliaia, insomma, sì. Ma anche uomini, no? Dico, uomini. Ma ti senti buono? Vabbè, ma... E dico, uomini, no. Poteva capitare. No, per l'amore di Dio. Ma sei in un mucchio là con un po' di gente. No, assolutamente. Sono su questo, se lo vogliono fare loro, si arrangiano, ma io sicuro no. Niente. L'uccello non ti piace, l'uccello. Purtroppo io sono tradizionalista. Cioè gli uccelli non ti piace, gli uccelli niente. Io vado solo con le femmine. Solo con le femmine. Vabbè, ma questo sai, ognuno. Vabbè, comunque, torniamo a quelli che gli piace andare con gli uomini, a me che me ne frega, a me che ci va, a me non mi interessa. No, certo, non c'è dubbio. Nemmeno lo disprezzo, perché ci mancherebbe altro. E c'ha quel gusto che si abbara col gusto suo. Il gusto, c'ha gusto, io c'ho il gusto delle donne. Pure io devo dire la verità, devo dire la verità anch'io. Da questo punto di vista anch'io. A meno che Parenzo, forse a Parenzo gli piace andare Come? Che dici? Come dice il professore? A te piace invece? Dove? A te piace? Che dici? Ma assolutamente no. A te non piacciono gli uomini, no? Ma assolutamente no. Che devo fare? Mi dispiace, ma non ho questa, non ho mai avuto questo. Comunque, gusto. Tu e con Silvio avete questa cosa in comune delle donne, eh? Tu con Silvio, che dici? No, beh, meno male che. Scusa Giuseppe, l'Italia è conosciuto nel mondo, sì, dimmi. È conosciuto per gli uomini amanti, anche se oggi come oggi si sta abbassando quella percentuale, che avevamo, sono tutti froci. Latin lover, dei famosi Latin lover italiani, è pieno di froci in giro, diciamo. Si sta abbassando un po' la percentuale, però siamo sempre noi, almeno. Come dire, ci sta qualcuno che va avanti e porta avanti l'italianità. Capito? L'italianità, Parenzo. L'italianità. Sì, il simbolo. Il simbolo è, è anche una cultura nostra, è latina. La cultura latina è... La cultura latina, perché... Cioè Berlusconi ha portato avanti questa cultura, diciamo, no? Perché i francesi, i spagnoli, i portoghesi, i greci, che sono cultura latina, anche loro... sicuramente hanno questa cultura che gli piacciono le donne, scusa, mica... non c'è dubbio, vabbè, per questo ci distinguiamo su questo, no? Latini sono latine, Latin lover, lo dice la parola stessa, Latin lover. Ti lascio un attimo, prima della pubblicità c'è una canzone che ti volevo far ascoltare, prego. No, adesso la riconosci. Che canzone è? Adesso la riconosci, partito. Quella che hai mandato a tua moglie una volta, aspetta. Lo sai che io ho mandato La lontananza e Rose rosse per te. Vai. a Rose Rosse di Massimo Ranieri. Com'è che fa? Rose rosse per te ho comprato stasera. Ma di che la voce è stonata, io non posso. No, cantare. Sei ottimo, ci risentiamo tra poco. Stupendo, Rose rosse cantate da Razzi. Spettacolare, spettacolare. È con noi il mitologico Antonio Razzi, senatore di Forza Italia. Milioni di click, adesso milioni, insomma, un paio di milioni di click, che sono tantissimi per la sua foto del matrimonio. A lui ci ha spiegato tutto. Ma come mai c'erano tutte queste donne che cadevano ai tuoi piedi, Antò? Dimmi la verità. Perché c'erano tutte queste donne che prima di sposarti cadevano ai tuoi piedi? Come mai? Ma guarda, io c'è un motivo, eri bello, guardo, eri bello all'epoca. Te lo dico da amico. Sì. Te lo dico da amico, Giuseppe. Io allora ho vinto 3 gare di ballo, ero il re del rock and roll, il molleggiato, sai. Vabbè, ma a parte la danza, eri bello? Mi difendevo, tutte le ragazze vedendomi ballare volevano venire a ballare con me e poi succedeva quello che succedeva. Cioè, ma eri la notte anche... ci facevamo la spaghettata alle 3 alle 4 mattina e poi si faceva tutto quello che si faceva. Cioè, la spaghettata in mezzo tra una cosa di sesso e l'altra, la spaghettata. Erano momenti di gioventù. Ma eri bravo, passatempo. Oggi altri giovani forse non hanno questo passatempo. Beh, insomma. E noi invece avevamo quel passatempo, ci facevo le donne, andavamo con le donne. Scusa un attimo, ma a caccia, sì, a caccia. Scusa un attimo, ma tu a caccia. Sessualmente eri molto bravo, per questo magari le donne ti cercavano, perché avevi una certa fama magari, o no? No, perché ballavo, facevo anche degli spettacoli col ballo e sì. È chiaro, le ragazze, figurati, cadevano ai tuoi piedi, impazzivano. Forse dopo non ero bravo a fare l'amore, ma però a ballare sapevo ballare. No, non mi dare questa delusione, però. No, vabbè, quello non lo so, quello dovevi quello dire era, loro, però, beh, chiedere a loro, ci vorrebbe se tempo. Venivano famiglia. Sempre con me vuol dire che erano contenti. No? Beh, sì, contente, sì, non c'è dubbio. Allora, la lontananza di Modugno. Aspetta, che parte, aspetta. Sì. La lontananza vai. Che fa dimenticare chi non s'ama. È già passato un anno ed io incendio. Ah, non so cantare io, guarda. Vai, che sei spettacolare. Ma è questa l'ho mandata sì. a un'amica sua vicino casa, perché io non glielo potevo mandare. Perché a tua moglie, magari, sì. Non glielo potevo mandare perché la mamma non glielo dava. Perché quando... pensava che fosse italiano, mandolino, no, perché ma... mi diceva questi italiani dormono col coltello sotto il cuscino e lui voleva dare altro, cioè, il coltello l'ha fatto dalla Svizzera, l'ha fatto rientrare in Spagna e lì io come ci scrivevamo, è chiaro che non potevo scrivere a casa sua, scrivevo a casa di un'amica. Ecco, tutte le amiche sentivano questi dischi che io gli mandavo. Ma com'è che fa la lontananza? La lontananza è come il vento. Vai. Che fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere più forte, mi sono illuso di dimenticare e invece sono qui a ricordare te. Ecco, questo, la lontananza. Ecco, allora queste parole quando lo sentiva, sì. Quello diceva mia moglie, i pianti che sta fatto. Mamma mia, dei pianti pazzeschi. Siccome le amiche non capivano l'italiano, dici quelli altri spagnoli piangevano insieme a mia moglie, perché anche che non capivano, però. Certo. Allora, però Antonio, una bella storia. Indipendentemente. T'ho fatto un grande regalo. Allora, l'incontro tra due grandi abruzzesi. Forse i più dopo D'Annunzio, i più grandi abruzzesi della storia. Giuro. Immaginate. L'incontro tra i due abruzzesi in questo momento, ma io dico anche nella storia, più famosi. Allora, il senatore Antonio Razzi, che è diventato ormai una specie di superstar, e dall'altra parte, Antò, chi t'ho invitato? Chi? Rocco! Rocco Cifrini. Com'è che si chiama, scusa, Antò? So che si chiama Rocco. Di cognome, come sì, fa, Antò? Sifredo faccio di cognome, Rocco Siffredi, Rocco Tano in realtà, Rocco Siffredi. Ma è di Ortona, so che c'è mia sorella, abita quasi lì, abita quasi vicino a casa di mia sorella. Magari non gliela presenti la sorella, perché sennò è rischioso. Rocco, che te sei fatto la sorella di Razzi? Non credo, perché manco da Ortona da 30 anni, 32. Io so che sei originale di Ortona. Originale, sì, no, di sono nato a Ortona, ma torno tutti gli anni, guarda. Lo so, io sono di Giuliano Teatino, non è che sono 41 anni che non... Io sono tanti parenti a Tessa, mio padre è originario da Tessa, quindi la zona è quella. Vabbè, ma ho detto giusto, Rocco, siete due abruzzesi che avete esportato l'Abruzzo quasi nel mondo, praticamente. Io ce l'ho messa tutta, poi... Ma ce tu... l'ho messo sempre tutto per portare fuori l'Abruzzo nel mondo. Senti, Rocco, non ma... mi risparmio mai, poi noi abruzzesi abbiamo tanta passione, tanta umiltà e anche ironia. Bravo, sì. Vedi che Rocco la pensa come me. È Senti, ma in Ungheria sono arrivate le gesta di Razzi? Adesso, Rocco, tu lo conosci ormai sul web, Crozza, eccetera. Sì. No, è ha rappresentato bene quello che sono poi la forza abruzzese. Ma dimmi una cosa, Rocco, ma in Ungheria, se tu votassi in Italia, Razzi lo voteresti? Ma guarda, io non ho mai votato, tu lo sai, perché interesso poco la politica, quindi non so realmente poi neanche per quale partito. Forza Italia, poi comunque Berlusconi, Berlusconi. Già perché sta con Berlusconi non è male. Non è male. Perché io tu sai, non mi schiero, però Berlusconi mi sta molto simpatico. Beh, il presidente è sempre il numero uno. Presidente è il numero uno. È sempre il numero one. Number one, si dice. Ecco l'altro. Sostiene Razzi. Che bel quadretto, però, su Radio 24. Che bel quadretto. Sostiene Razzi, sempre sulla radio di Confindustria. Sì. Sostiene Razzi che lui è stato prima di sposarsi con quante donne, Anto? Migliaia, che ma che migliaia, dai, cioè, Anto, non se le deve tutte scritte al libro, cioè, mia moglie me la migliaia pregava, abitando sempre lì a Ripa Teatina? No, in Svizzera. Ok, perché mai in Svizzera ci credo, perché a Ortona quando c'ero io se te ne facevi una andava bene, la seconda attenzione a quella, la terza eri un porco e non trattavano più, quindi insomma. Io sono andato via a 17 anni, là giù non si faceva niente. Peggio di Ortona. Io quando sono andato in Svizzera, che lì c'era bella carne. Bella carne. Beh, sì, belle donne. Sai, in Svizzera erano avanti, Erano avanti. Però adesso siamo avanti noi, però. Abbiamo fatto bella figura. Non dimentichiamo che gli svedesi erano quelli che hanno iniziato tutto. Adesso se vai in Svezia ti danno le botte se te lo tiri fuori. Non esiste più, Però scusami, Razzi, io voglio dire una cosa, ma alla fine si può quantificare fino al matrimonio? Cioè, veramente sei andato sui 1000? Veramente? Ma sicuramente. Tra i 1000? Giuseppe, a 17 anni, fino a 26 anni. Che ne so, io 10 anni. La bellezza di 9 anni. 9 anni, quante ne hai fatte in 9 anni? 9 anni, io mi sono sposato per non morire sopra una donna. Addirittura? Te lo dico da amico, ecco proprio, mi sono sposato apposta, dico così mi riposo. E infatti così quando mi sono sposato mi sono riposato. Ma è un po' come Rocco, direi. A 26 anni riposarsi un po' presto però, No, ma dopo lo facevo con mia moglie, scusa Rocco. Me lo sono tagliato, no. Ma io devo dire che devo dire con molto rispetto che se sei riuscito a indicare tutte le tue energie verso un'unica donna è la cosa più bella che uno riesce. Però tu ci hai provato, non ci sei riuscito, Rocco. Non ce la faccio, credo purtroppo sentimentalmente sì, sono 20 anni che vedo solo lei, però purtroppo non ce la faccio. L'altra parte di me magari è terribile, c'è una parte dentro terribile e io penso che probabilmente invece mi succederà quello che non voleva, cioè? È quello di invece lasciarci le penne sul corpo di una donna. Tu pensi che morirai sul set? Secondo me sì. Cioè d'infarto, dici tu, o di che cosa? Qualcosa di strano, me lo sento da sempre, però voglio dire e non ho mai mollato, ti dico solo adesso il mese in America. Cioè, ma aspetta un attimo, a parte il mese in America, che un'altra volta ci racconterai, che adesso c'è questo incontro mitologico tra due abruzzesi, però cioè, è stato eroico nel senso che hai combattuto, hai faticato come un pazzo in America. No, vedo che adesso le donne chiedono molto di più di prima, sono diventate molto più estreme, esigenti. E a me piace sempre giocare con la natura senza troppe rinforzine, e mi sono reso conto che purtroppo è diventato più pesante di prima. Non gliela fai, il recupero, siccome mi sono messo scene su scene, non è più come una volta. No, non c'è dubbio. E queste sono toste. Ogni tanto mi ha dato il colpettino del tipo: che fai? Vuoi insistere? Un po' di là. Però io ti parlo di 4-5 ore di scena, non so se stiamo parlando della stessa cosa. No, Antonio ormai con Antonio io sto parlando io 4 ore con 2-3 ragazze molto molto dinamiche, dove perdi tanti litri d'acqua quando c'è molti liquidi e non solo non c'è dubbio. Non so. Scusa Antonio, tu hai fatto 4 ore qualche volta consecutive? Quando ero ragazzo a quel tempo lì sì a 4 ore consecutive. Lì c'era l'energia, quanti anni ha il signor Antonio? Mi scusi, io sono 66, tu sei troppo giovane. A 66 anni probabilmente sarà molto complicato pure per me a fare questi ritmi di oggi. Allora io faccio 50 anni la settimana prossima. Bella conversazione. 50 anni di Rocco, ma bisogna fare qualcosa per i 50 anni. Io mi sono organizzato un bel film, i miei primi 50 anni. Bello, complimenti. Scusa, Antonio, l'hai capita? C'è una N. L'hai capita come cosa, Anto? Sì, i primi 50 anni. Sto ancora decidendo come spegnere le candeline, perché 50 da piazzare non sarà facile, però... Vuoi fare quello? Sì, 50? Faccio un super film da paura. Ma è una roba imperdibile questa, ma veramente, ma una cosa. Io però voglio dire una cosa ad Antonio. Prima Rocco, scusa, due abruzzesi doc, praticamente tra i più famosi nel mondo. Ce ne sono anche altri. Sì, ce ne sono altri, certamente nel campo della cultura, della cosa, ma che c'entra? Strano che questa conversazione non sia mai avvenuta a Focus Economia. Questo è strano, diciamo. No, però Antonio nel campo della politica, Rocco nel campo comunque della produzione, dell'economia. Scusa, ma non sono due abruzzesi famosissimi, sono due abruzzesi famosissimi. Sì. Rocco, quando mi hai detto prima che vuoi in realtà morire... Non che voglio, probabilmente mi succederà. Però alla fine, tra una cosa e l'altra, uno può dire io preferisco morire così, se devo scegliere o no. Ma io non ci ho mai pensato più di tanto, perché sarebbe una bella morte. Su quello che ho sempre voluto fare, su quello che faccio gli ultimi 30 anni, è quello che volevo sempre fare. Cioè, dunque, vuoi morire era così? Quello che volevo fare. Certo, quindi. Vuoi morire così. Ma Antonio, tu come vuoi morire invece? Sempre toccandoti, tocca sempre di quelli una, tocchiamo le cosiddette. Come si dice in abruzzese? Ricordaglielo un po' a Rocco, che è lontano dall'Abruzzo da un po' di tempo. Tocchiamoci? Com'è? Le coglione. No, vai quello in italiano. Ortone si dice di cui una, dici proprio alla ortonese. Dice si dice di cui una, hai ragione. Di cui una, bravo. Come vuoi morire, scusa? Possibilmente non morire, vivere più a lungo possibile. Possibilmente. Dopo, io già l'ho detto, è meglio un infarto, perché così muore e non ti accorgi di niente. Un infarto, quello. Perché... Marocco c'ha una morte più bella, più poetica, in mezzo su un set porno. Lui è ancora giovane, lo può bollente. Fare. Circondato, com'è la storia? Io ho detto soffocato da una patata bollente. E dopo la patata bollente di Siffredi, pubblicità, poi torniamo per le ultime, le ultime dall'Abruzzo in the world, Rocco Siffredi e il senatore Antonio Razzi. Li abbiamo fatti conoscere oggi a Zanzara. Siamo qui. Ottima trasmissione, sempre la migliore. I due abruzzesi più famosi nel mondo, il senatore Antonio Razzi, senatore di Forza Italia, e Rocco Siffredi, per la prima volta si conoscono qui in radio, alla Zanzara. Antonio, tu sai che lavoro fa Rocco? Sì. Che fa? Fa anche l'attore. Anche c'è tutto in quel anche. Però questa è acuta, guarda Razzi, perché non è un lapsus. Io l'ho visto a un film, L'ho visto però un in un film, no? In un film. Bene, hai capito. Davide, sei sempre rompicoglione. Era solo per mettere dentro. Scusa, Antonio, quanti film hai visto di Rocco? Io tanti, devo dire la verità, come tutti gli italiani, peraltro nessuno lo vuole ammettere. Ti ricordi la storia di uno dei film di Rocco? Ma che c'entra la storia? No, guarda, non mi Davide, la storia di uno dei film, due bionde e una bruna. Antonio, allora lo sai che il mio secondo nome vero è Antonio? Io mi chiamo Rocco Antonio Tano. Antonio Tano, c'è qualche legame? Tu ci credi, Rocco, al fatto che Antonio Razzi in 9 anni è andato con più di 1000 donne, come ha detto prima? Ma perché no? Perché no? Sei amico, è molto amico del presidente, quello è cresciuto bene. Beh, all'epoca non era molto amico del presidente, comunque vabbè, uguale. Scusami, Antonio, io dico una cosa, ma che allora Rocco, tu sai che lavoro fa? Fa il porno, che fa? Film porno, il porco star, tutta quella roba là. Ma l'hai visto? Te lo ricordi qualche film suo? Quanti ne hai visti? Titolo non mi ricordo di nessun film. Io non ho visti parecchi, ma non mi dire la storia l'ho visto parecchi, che stava con bionde, con brune, insomma, lavorava bene, non c'è dubbio. Si faceva valere da buona abruzzese. La particolarità di Rocco Siffredi qual è? Diciamo, Antonio, diciamo la verità, tu la conosci la particolarità di Rocco? Il talento maggiore di Rocco, qual è sempre stato? Quello che sa la passione, ragazzi, mannaggia. Volete far credere che si tratta tutto di grandezza, di centimetri? No, i centimetri sono la passione. No, ma lo so, però volevo capire da Razzi. Impara una cosa, Davide e Giuseppe, imparate una cosa. Impariamo, sì. Che qualsiasi lavoro che si fa o mestiere che si fa, lo devi fare con amore. E se non ci metti amore, non fai niente. Io vedo che voi due ci mettete amore alla vostra radio, ecco perché Radio 24, la Zanzara, funziona. Allora, applausi tra noi. Non per la seconda cosa, per la prima cosa. È vero anche per il mestiere che fa Rocco Siffredi. Se non ci metti amore nelle cose che... Se non ci metti amore, la stessa cosa non gli viene bene. E allora... diciamo l'amico Rocco, da buon abruzzese, diglielo in abruzzese. Diglielo in abruzzese. Ce le mette tutte. Allora, quando ce le mette tutte e ce le fa con la voglia di farlo, gli riesce tutte buone. Capito, no? Vabbè, che il nonno mi diceva pure, per fare 10 vuole lo strumento, e io ci sono messo pure lo strumento, quindi. Capito che vuol dire, Razzi, c'ha pure lo strumento, capito? Senti, Rocco, lo sai che il ministro Boschi cerca marito? La conosci? Ragazzi, io non riesco a capire come una topa del genere, una patata del genere cerca il marito, secondo me... Sì. Secondo me è strano. Però lo sai, in un sondaggio di Libero. Deve avere la fila, è vero, si dovrebbe avere la fila, sì. Non si capisce. Però è bene una cosa: in un sondaggio del quotidiano Libero. Vabbè, però quelli l'hanno suggerito, era facile, diciamo, per quelli che vanno sopra. Tu sei la persona più gettonata per diventare il partner. Io non credo che lei, abbia questo tipo di aspirazione, caro Rocco. Mai dire mai. Ah, mai dire mai, dici. Mai dire mai è un motto che per di me fronte è diventata la realtà. Sì, ma guarda che non è sempre così. L'abito non fa il monaco. Magari la vedi così e poi in realtà è molto strong, molto particolare, molto di fantasia. Però non la piglieresti così per un tuo film, o sì? Magari, cioè quella faccia un po' è da... molto bella, molto sciavviso così, molto molto carina, molto... non mi piacciono a me le maiale quando le vedi subito porche. Scusi? Mi piacciono quando sono normali, sì? E che dicono mi voglio divertire, sì, voglio, certo, provare, sì. Quelli ci penso io. Tu dici che quelle che meno te l'aspetti alla fine sono le migliori, no? Bravo, 100%, ogni volta che faccio dei casting, quelle che arrivano, che ti dicono faccio di tutto di più, non le prendo mai. Invece quelle che sembrano anche, che hanno questo viso carino, eccetera, eccetera. Ma che ti dicono vorrei provare, perché no, voglio provare esperienze nuove. Vabbè. E lì hai sicuro qualcosa di top. Vabbè, questo è il quadro di Rocco, cioè, che fra poco fa 50 anni. La nostra borsa. Però io devo chiudere borsa, perché abbiamo il traffico. Con un saluto al senatore Antonio Razzi, due grandi abruzzesi che si sono trovati. Saluto il senatore e saluto l'Abruzzo e voi. Sì. Dai, forza, grazie, saluta. Grazie Rocco, saluto anche a te, saluto tutti gli abruzzesi. Rocco, scusa, tu quante, hai fatto un conto di con quante sei state? Più o meno, 1 milione? No, no, non oltre 5.000, perché ho fatto 1.700 film, perché da quando ho ricominciato ad oggi ne ho fatti altri 200 gli ultimi 3 anni, però voglio dire, siamo una tra media di 3-4 ragazze al film, non supero le 5.000 ragazze. 5.000? Vabbè, poi quelle nella vita normale, oltre a quelle dei qualcuna film. Sì, qualche scopatina fuori l'ho fatta. Appunto, che ne so, un altro migliaio lo vogliamo aggiungere o no? No. Perché no? Perché no? Forse di meno. Cioè, forse di dunque. Non come il senatore, nel privato non ho avuto troppo tempo da dedicarci. 5.000, oltre 5.000, sui 5.000. Diciamo che con una bella telecamera davanti, 5.000 sicure. Poi queste sono documentabili, quelle non documentabili non le ho segnate. Vabbè, comunque in tutto saremo poco dopo i 5.000, dai, forza. Sì, poco dopo, dai. Capito, Razzi? Qui tu, c'è. Giuseppe, invita Rocco alla manifestazione che vorremmo fare lì a Pescara. Adesso ci pensiamo, questo sta sempre in Ungheria, amico mio. Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito, why don't you go? Ancora a casa, non me moleste e intanto la Zanzara cerca di trovare un fidanzato per il ministro delle riforme Maria Elena Boschi. Il mio aspetto fisico non è merito mio, se ho gli occhi azzurri o altre cose è merito della mia mamma, chiaramente del mio babbo. Io vorrei essere valutata per il lavoro che faccio io, con una battuta sulle riforme più che sulle forme. Al nostro numero verde ha chiamato Stefano da Milano. Senti. No, comincio già. Maniaci. No, che maniaci? Gente normale. Ma che normale? Dai. Ciao, sono Stefano da Milano, sono anch'io scout a Gesci, non Cingei o Asci, ma tanto il ministro sa di che cosa parlo, quindi abbiamo una certa così appeal. Ecco, sono anche grafico pubblicitario, quindi propongo al ministro magari un calendario, perché no, un bel calendario. Grazie, ciao. Ma questo parte subito male, vuole fare un calendario, ma quella è una persona seria. Prima dice che è della Gesci, c'è lo scout, si presenta bene, dopodiché il calendario, vuole fare il calendario, amico mio. Senti quest'altro, Giuseppe. Mi chiamo Giuseppe, sono vedovo da poco, sono in gamba, sono un promoter, ho la mia pensione, l'invalidità, ma non ho nessuna patologia che possa osteggiare un buon rapporto di matrimonio. Se vuole posso fidanzarmi con la ministra Boschi. Ciao! Vedovo e invalido, ho detto tutto, ragazzi. Adesso, senza nessuna offesa, però, eccetera. Non è che perché devi dire? No, però, amico mio, ti abbraccio fortissimo perché sei stato coraggioso. Comunque, a chiamare. Un vedovo non può. Non no, sì, ma vedovo e invalido va benissimo. Però, uno non è che si presenta proprio benissimo, no? Uno dice sono vedovo e invalido. Ma anche se... ma magari no, altre ma qualità, ho capito, no? Sì, che c'entra? Però, non è che tu c'hai la forfora. No, ma per me l'invalidità è una. Spesso è anzi una. Ma perché la forfora dovrebbe una forma di invalidità? Ma figuriamoci, ma io no, poca, sì. Moltissima. No, no. Che c'è poi qua? Moltissima. Ma non è vero. Moltissima. Elisabeth Domenicana, che è questa qua? È lesbica, mi dicono. Ma veramente, ha chiamato una così? Dai, su. Pronto, buonasera. Vorrei candidarmi per la Boschi. Non lo so se è solo etero, però neanch'io mi sono spostata. Io vorrei provare. Non lo so chi farà il maschio o la femmina, ma lo stesso l'ho visto che è una bella donna. Bene, aspetto la risposta. Elisabeth Domenicana. Ciao. Ma quale risposta aspetta la signora Elisabeth? Il mondo è pieno di pazzi. Sì, ma adesso poi ragazzi, dobbiamo essere seri. Allora, arrivano tante telefonate. Però ripeto, mutuo esenti. No maiali, no, non cose oscene, perché ovviamente non è che possiamo mandare in onda. Qui è una roba seria, cioè candidati, uno si può candidare, però segreteria telefonica, ve lo dico da amico, 02 46 52 02 46 52 40 10 02 46 52 40 10. Luca da Verona, dai. Ma uno normale può telefonare allo 02 46 52 40 10? Uno normale, uno. Ma certo. No. Ma no, perché già se uno chiama non è normale, è evidente. 46, no? 52, 40, 10. Non dare numeri sbagliati. 46, 46 52, 40, 10. Tu dici, chiamano solo persone anormali. No, non, cioè, è vero. Già uno che chiama lo 02, 46, 52, 40, 10. Già il fatto stesso che uno si metta là col telefono. Luca, cioè, da Verona. Che mando il mio curriculum per mettermi. Se noi siamo matti, noi voemo. Ha ragione la signora, dai, di Venezia. Sì, ciao. Ciao. Ciao, sono in linea? Sì, è fino a prova contraria. È uguale. Sì, ho aspettato un po', sì. Volevo dire una cosa sugli 80 euro di Renzi e una sulla polizia. Gli 80 euro di Renzi, mi sorprende che lasci la gente intervenire. Cioè, c'è ancora chi ci crede? Cioè, magari chi si intasca i soldi si illude che questa sia un miglioramento della propria posizione, invece aumentano altre cose e secondo me poi si diventerà strutturale. Per carità, uno può dire la prima volta che un presidente del Consiglio, che un governo mette in tasca agli italiani. A me piacciono altre cose, a me piacciono riforme più strutturali. Per esempio, mi piaceva quell'idea di Berlusconi di una volta, che lui non ha mai attuato, perché questo bisogna dirlo, mai attuato. Ti ricordi quando aveva proposto di diminuire tutti gli scaglioni delle tasse, no? Sì. Cioè di diminuire tutti, voleva portare giù lo scaglione del 43, l'altro scaglione ancora. Queste erano le vere riforme, poi non ha fatto una mazza. Però queste erano le vere riforme, non 80 euro a 10 milioni a quelli che guadagnano 1.500. Questa è la riforma strutturale del fisco. A me piace molto quella flat tax, la tassa al 25% che c'è in Russia. Magari si potesse fare. Bisognerebbe tagliare altro che 700.000 dipendenti pubblici, come dice Luttwak, tagliare un sacco di spesa. Queste sono le riforme vere, se no sono palliativi, è come la pasta di Achille Lauro, dai. E il conduttore? Esatto, che ormai è tutto finito. Allora, come dimenticare, caro Davide, qui alla Zanzara, le riflessioni, devo dire le alte riflessioni di ieri della signora Cipriani. Te lo ricordi, sì? Beh, in tema anche con... della signora Francesca Cipriani, showgirl, showgirl. Quella è una storia seria però, eh? Sì, è una storia seria. Forse ieri abbiamo riso un po' troppo. In realtà non è che abbiamo riso troppo. No, non abbiamo riso. Abbiamo detto, scusa, ma se ti fai picchiare da questo tuo fidanzato, la showgirl signora Francesca Cipriani, quella che tra l'altro, lo dico tra parentesi, non c'entra niente, si è rifatta anche il culo, te lo ricordi? Si rifece il culo, sì, con un'operazione che non è... come non, sai... No, non è riuscita molto bene quell'operazione. Ti ricordi che poi gli è praticamente... scoppiato il sedere, mi no? Parli come dici, ti ricordi la manovra finanziaria? No, non è la manovra finanziaria, no. Allora, signora Cipriani, una persona molto rifatta, diciamo la verità, molto, che molto rifatta. Questo, ma no, ma c'entra, ma va inquadrato il personaggio. Cioè, Cipriani. No, ha subito una delle violenze terribili. Ha subito delle violenze terribili. E tutto è nato dal fatto che a un certo punto ha visto il messaggino del suo fidanzato. No, bisogna rifare il punto sul fidanzato a questo punto. Cioè, fai risentire quella, perché bisogna capire. Ho visto il messaggio di una prostituta, senti. Allora. Ha suonato il suo telefono sulla lavatrice, lui non riusciva a rispondere, tu vedi un attimo chi è. E c'erano dei messaggi, diciamo, di una prostituta. Purtroppo sì. Ho visto messaggi hard, messaggi tra lui e la prostituta, e quindi diciamo che appena visto che ho visto, mi ha riempito di botte, dalla testa ai piedi. Mi ha riempito di botte. Gira con un coltello. Questa è una cosa seria, adesso noi ci scherziamo, ma questo fidanzato, sì, della signora Cipriani gira, pare che giri secondo lei con un, sì, coltello. Voleva uccidere chi ci sorpassava in auto. Personaggi incredibili, incredibili. Ma gira armato, no? Sì. Dica cosa? Armato di cosa? Come armato? Un coltello a serramanico molto grande, e l'ha tirato più volte anche in autostrada quando qualcuno ci ha sorpassato. Lui ha abbassato il finestrino, ha minacciato di morte la gente. Anche al mio ex ragazzo, in un locale dove io avevo fatto un'ospitata, lui mi aveva accompagnato, ha visto che c'era il mio ex e lo voleva coltellare anche lì. incredibili, ragazzi. Allora, guarda, giusto per capirsi, perché ho ripreso appunti. Sì, dimmi, hai ripreso appunti. No, rifacciamo un attimo il quadro della situazione. Questo signore, il fidanzato della signora Cipriani, primo, è un signore notoriamente violento. Sì. Secondo, è geloso. Sì. Ma è geloso? E cosa fa? Sì. Si scambia SMS hard con delle prostitute. Cioè, non è che becca la cosiddetta fidanzata, magari. No, lui si incazza e mena la fidanzata perché ha trovato la cosa. Non solo, non contento di tutto questo, terzo punto, in autostrada, se uno osa superarlo, come solitamente in autostrada si accade, fa col permesso di questo simpatico signore, brava persona tra mille virgolette, tira fuori un coltello a serramanico e lo minaccia a chiunque lo superi. Quarto punto, se tu hai l'ardire di essere stato un ex ragazzo, magari delle elementari, della signorina in questione, ti vuole uccidere. Ecco, il quadro di questo signore, un signore che è a piede libero, è inquietante. Sì, è questo qua. Sì, però siccome qui, io ti questi quattro punti che ho voluto scrivere. Però tu davvero, sei a Roma, tu sei a Roma, io a Milano. Ti prego, non insistere, perché io non vorrei trovarmelo. Non vorrei trovarmelo qua sotto. Ecco. Consiglierei che il signore all'ascolto, questo pacifista all'ascolto, fidanzato della signora Cipriani, ex, spero, a questo punto, di venire a Viale Monterosi e eventualmente fare un confronto senza coltelli a serramanico, perché tu peraltro in autostrada superi sempre, lo deve sapere questo signore. Tu stai invitando questo signore a fare un confronto con me qui alla radio sulla signora Cipriani. Bellissimo. Allora io dico al fidanzato che sia a Pavanello, non so come, signora Cipriani, io non l'ho mai toccata, le posso assicurare, le posso giurare su quello che ho di più caro, che io non l'ho mai toccata, mai. Non ho fatto nemmeno un pensiero, caro Parezzo, diciamoglielo però. Oppure tu dici, lo dico a voi due, d'amico, fatevi cazzi voi. Sì, no, credo questo sarebbe questo, meglio. Questo caso è meglio. Però scusa, cioè, Parezzo, questo non è che vuoi, non è che vuoi diffondere l'idea che abbia avuto a che fare la signora Cipriani, no? No, ma questo non voglio, tengo la tua salute, quindi. La cosa che mi manda in bestia, questo qui è geloso, ma si scambia SMS con prostitute. La ragazza lo becca, non è che dice, ah vabbè, scusami, la mena! E poi in autostrada, questo mi ha colpito, uno lo supera e lui tira fuori il coltello a serramanico e vuole uccidere gli ex fidanzati. Ah, ma che io trovo incredibile, adesso io rido, non bisognerebbe ridere, però. No, ma trovo incredibile la situazione, no, di quasi inverosimile, dici tu, quasi inverosimile. Inverosimile, di che parliamo? Vabbè, Roberto da Pavia, dai. Eccoci qua, buonasera Cruciani, saluto caramente David Parenzo. Vai, Robè, dai, forza. Ma questo sembra Yonghi Lavarini, sembra. Dalla voce sembra Yonghi Lavarini, il barone nero. Il mitico barone. No. Come dire, domani sai che con l'approssimarsi del 25 aprile vorrei chiamare il barone nero. Beh, siamo al top, col barone nero domani. Domani siamo col barone nero e ti segnalo che a Pordenone il prefetto ha vietato Bella Ciao. Questa è una storia incredibile, eh? Domani è il 24. Sì, sì. Domani già lo annuncio qui, domani avremo ospiti il barone nero. Non il è il prefetto quello che signor ha dato Yonghi le chiavi Lavarini a Cosentino. No, un altro prefetto che pare abbia vietato Bella Ciao a Pordenone, cosa incredibile comunque. Vabbè, comunque, chi c'è? Vabbè, niente, io volevo dire, su sta roba degli 80 euro, volevo rispondere al signore di Roma, no, perché 80 euro, che ce faccio? Quello lì prende 1200 euro, cioè all'anno sono 1000 euro, è una quattordicesima che la sua azienda non gli darà mai, e quindi cosa sputa su questi 1000 euro all'anno? Ma se lui vuole sputare, lo faccia sputare, no? Cioè qual è il problema? Ma sì, però magari se lui dice, di quelli che ma poi quello è andato ha 5 a protestare figli, con i cartelli in quelle piazze inutili, no, in non mi pare, scioperi inutili per rivendicare chissà che cosa, adesso questi qua si trova 80 euro, se li mette in berto e si lamenta. E allora io gli dico che se si lamenta, gli do il mio IBAN sì, IBAN, ho e capito. Questo qua mi manda i soldi. Dunque? No, e dunque niente, cioè io lo trovo allucinante, questi qua che si lamentano, cioè così a prescindere, cioè si beccano 1000 euro all'anno senza fare un cazzo e si lamentano a prescindere, punto. Vabbè, grazie Robè. Paolo da Pordenone, appunto da Pordenone ci chiama tra l'altro, eh. A lei gliene frega qualcosa che il prefetto ha vietato Bella Ciao per il 25? No, di la verità. In realtà non mi interessa proprio niente. Cioè lei non festeggia il 25 aprile? Ma sì, ma non così, insomma, non è quello. Quello che mi ha colpito è stata la frase dell'onorevole Rassi. Quale? Quello della bella carne. Eh beh. Cioè, ma, scusi, sì. Scusate, ma un'affermazione del genere, non so come si può fare. Paolo, ma che lo dice a noi? Si rivolga a Razzi. Razzi, quando no, parla, di, quando parla di donne, è un po', come dire, cavernicolo, direi. Ma cavernicolo. Che ci fate sentire queste persone, così si conoscono bene a fondo. E, ma mi sembra che Razzi lo si conosca meglio. Abbastanza già, non c'è bisogno di approfondire. Sì, no. Da quel punto di vista lì non si è aggiunto niente. Sì, dunque... Però quello della buona carne è stato il massimo, Dio buono, proprio... Devo dire che chi lo ha votato, questo signore, sono state tutte le pecore dell'Abruzzo, Dio buono. Lei è riuscito a mettere insieme tre bestemmie o comunque tre imprecazioni nel giro di 30 secondi, va benissimo, per carità. Imprecazioni. E nel modo buono, sì, nel modo buono. Grazie. Il 25 maggio, carissima vacca, il 25 maggio è il tuo giorno, è il mio giorno, il nostro giorno. Vota e fai votare l'altra Europa con Tsipras. Vota e fai votare Franco Arminio. Quest'uomo ha fatto un comizio davanti a una vacca, si candida con Tsipras, però ragazzi non ridete perché secondo Roberto Saviano, non che sia una garanzia per forza comunque, è uno dei poeti più importanti di questo paese, capito? Il migliore che abbia mai raccontato il terremoto in Irpinia e quello che ha generato. Arminio, buonasera. Buonasera. Come sta? Nella nebbia irpina. Nella nebbia irpina. Dove si candida De Mita? Alla nebbia. Come un comizio alla nebbia, Fra? Ho fatto un comizio alla nebbia. E com'è sto comizio? Fammi sto comizio alla nebbia. Ripetimicelo qua. Carissima nebbia che ci assilli da anni, hai i giorni contati, un'onda di luce il 25 maggio ti porterà via l'altra Europa con Tsipras. Vota e fai votare Franco Arminio. Beh, qui siamo al top. Allora, Franco Arminio, lei che è poeta, ma scusi, ma che cazzarola si presenta alle elezioni europee? Scusi, lei è paesologo, è un poeta, c'è una persona alta, ma che ci va a fare? Perché vuole andare a Strasburgo, in Europa? Lei che è considerato uno dei più grandi poeti, questo lo dico seriamente, uno dei più grandi poeti del nostro paese, Arminio. C'è bisogno di poesia, mio caro. C'è bisogno di poesia. Anzitutto, che cos'è il paesologo? Così, per curiosità, il paesologo. Il paesologo è uno che dà attenzione a una creatura, il paese, a cui nessuno dà più attenzione, né il civile né negli altri. Bravo. L'Italia è piena di paesi, di montagne, e ha dato le spalle ai paesi e alle montagne. Dimmi una legge in questi anni che parla di paesi e di montagne. Niente. Beh, devo dire la verità che ti ho visto in una foto, caro Franco, in una foto con un cartello di cartone in cui questo è l'unico... Com'era il cartello che hai messo? No, non ho problemi, questo è l'unico buco che vogliamo. Era una lunghissima battaglia contro una sciagurata di... Ma lì c'era una donna inquadrata, c'era una donna inquadrata nelle sue parti intime, questo è l'unico buco che vogliamo sulle nostre terre. Assolutamente, infatti non la battaglia l'abbiamo vinta. Il buco non l'hanno fatto e altri buchi ne abbiamo pochi, ma assolutamente quella battaglia l'abbiamo altri vinto. Buchi ne abbiamo? Scusa? Siamo una terra di maschi solitari, una terra... Tu dici non ci stanno femmine lì? Niente, caro, niente, tu sei in astinenza, pure tu sei così, una specie di astinenza, sei... No, io sono felicemente sposato. Sposato, vabbè, che te frega allora. Ma mi preoccupo dei miei... Dei tuoi concittadini, insomma. Cioè tu dici che lì c'è carenza da quel punto di vista. Questo è un problema serio del... Cioè in che senso un problema serio del sud, scusa, spiegami. No, è un problema, ma non a caso abbiamo ancora, no, sapete, insomma, le prostitute, abbiamo le badanti, abbiamo un sacco di... Sono cose che non si dicono, no? Cioè che cosa? Cioè, qual è il problema? Spiegami, non ho capito bene. Allora, c'è ancora tuttora in Italia una questione... Di possiamo chiamare una questione sessuale? Cioè, quale sarebbe? C'è. La rete a che cosa serve? In gran parte. Ah, tu dici c'è difficoltà da parte di molti uomini a trovare una partner disponibile. Nella società dell'autismo corale, in cui ognuno ha l'autismo corale, tutti gli altri, sì, mio caro, sì. Ci sono tante relazioni sociali. Ma al sud soprattutto, è difficile avere... Ma no, al sud, al nord, nelle città, nei paesi. Cioè è difficile avere rapporti sessuali, questa è la sostanza. Secondo me sì, soprattutto è difficile avere rapporti di qualità, rapporti di qualità. Basati anche su no, allora, ma il comizio alla vacca, io voglio dire, il comizio alla vacca che hai fatto, ma com'era esattamente, che non me lo ricordo più? Cara vacca, com'era? Intanto era un gruppo di vacche iniziale, no? Sì. Poi una se ne è staccata, una vacca autistica si è staccata. Io sì, così, e tu che hai fatto? Come dire, no? Che hai fatto? Ho cercato di sollecitarla. Chiaramente lei si è girata e qualche cretino di giornali ha detto: ma la vacca si gira, ci mancherebbe che ne sta. Cioè, ma qual è il senso di fare un comizio alla vacca? Fra? Comizio alla vacca? No, il senso intanto era un modo... Cioè, ma tu ci credi per davvero che la vacca abbia, come dire, risposto alle tue parole? No, la vacca non ha risposto, si è girata perché pensava che stava cercando l'erba. Ecco. Il problema è questo, che noi abbiamo un'arroganza di fondo, noi esseri umani, quindi anche la politica, se serve solo a organizzare la vita degli uomini. Ma che tu sei animalista pure tu? Ma no, io non sono animalista, io se vogliamo sono addirittura pure per le carte, per la ruggine sui lampioni, per le nuvole, per tutte le cose che stanno nel mondo, sono tutte in qualche modo degne di attenzione. Le pozzanghere, no? Le pozzanghere. Le pozzanghere, le formiche. Ma certo, mio caro, perché... Ma scusa, ma se tu cadi con la faccia in una pozzanghera, ti accorgi che c'è la pozzanghera? Beh sì, questo non c'è dubbio. Se sbatti con la testa sul lampione, ti accorgi che c'è il lampione? Beh sì, però il lampione l'ha messo qualcuno là, non è che un essere animato, il signor Lampione, o no? E perché se un essere non animato non fa parte, si è appoggiato sulla terra, quindi merita in qualche modo un attimo di attenzione pure lui, no? Beh sì, però io dico una cosa, Fra, tu fai il poeta e sei probabilmente uno molto bravo a fare il poeta. Io non ti ci vedo molto in politica, caro. Ma io intanto non ci vedo quelle che ci stanno, oppure tu li vedi quelle che ci stanno. Berlusconi, per esempio, come lo giudichi tu? Rapidamente, proprio con una battuta. Berlusconi è il proprietario di una delle tre ditte che attualmente sono in circolazione per prendere... Una delle tre? Delle tre ditte, sì, che commerciano in voti, no? Una delle tre di Berlusconi e Grillo. Cioè loro commerciano in voti. È una ditta, diciamo così, che sta chiudendo. È un po' come quei vecchi commercianti di ferramenta che adesso vende solo qualche chiodo arrugginito, prima vendeva le motoseghe, le cose. E c'è questo commerciante rampante che ha aperto un nuovo negozio di ferramenta a fianco. Pensi che insomma che si va meglio, no? E invece poi Grillo di fronte che urla, che fa, che stre... Sono tre cose così, no? Cioè tutti i venditori alla fine. Perché mi dici che non è per me? Non è per loro la politica. Sì, questo, devo dire che questa metafora che hai fatto dei venditori di ferri vecchi, quello che ha aperto l'afferramenta nuovo e quell'altro che grida, non è male, Caro Franco, com'è? Non è che l'ho pensato da prima, io le cose le penso al momento. Scusate, ma come fa quella la vacca un attimo così per chiudere? Che cosa, come fa la vacca? Carissima vacca, è sempre lo stesso il refrain. Carissima vacca, il 25 maggio vieni con noi, ti porteremo in Europa, la sinistra della luce, la luce della sinistra. Ma sono tutte cose così, che un po' di lietezza ci vuole nella politica, no? Ma sì, ma sì. Hanno attristato per secoli. Ciao Franco, a presto, ti abbraccio. Ciao caro, ciao. Ma danzano come zanzare. Oh, Luisa da Genova, la signora Luisa da Genova. Eccoti qua. Cara Luisa, dimmi. Sono arrabbiatissima, avrei tante cose da dirti. Ma prendiamo solo una. No, ma soprattutto non si sente una mazza. Dunque, Gigi da Verona, io ti farei parlare molto volentieri, Luisa, ma purtroppo non si sente una beneamata. Gigi. Eccetera, eccetera. Io voglio solo segnalare che la ministra Boschi. Sì. Pronto? Dimmi, Gigi, dimmi. Gigi, sono io. Dai. Ragazzi, allora io sono un po' stupito con i grandi esperti, Cruciale da una parte, Rocco Siffredi dall'altra, la Boschi è carina, tutto quello che si vuole, sguardo splendido. Non faccia il maiale, però? No, voglio segnalare, e mi stupisco che nessuno se ne sia accorto, che ha dei fianchi importanti, c'è un culone gigantesco. Ma chi le ha detto che nessuno se ne è accorto? Hanno discettato sul web per mesi e poi chi se ne frega? A parte che le forme ogni tanto non sono male. Franco dalla provincia di Bari, veloce, dai, non faccia il maiale. Ci pensiamo noi a quello. Franco, dai. Ti invito a Polignano a mangiare un po' di pesce, dai. Dove a? A Polignano a mare. Polignano a mare, numero uno, sì. Allora? Scusa, io ho visto... come cazzo si chiama la... Chi? Ubriaco, dai. Chi? Brunetta, Polignano. A Brunetta, a Polignano. La festa è lì, però. Franco, lui era la compagna, sembravano due vabbè, questo uno è un metro, 1,80 1,50 ma questo qua è sconnesso, sconnesso. Con l'ubriaco Franco chiudiamo, ci sentiamo domani 18:30 sempre qui sul pezzo, ciao. La passione, ragazzi, mannaggia a voi, non voi volete far capire, volete far credere che si tratta tutto di grandezza, di centimetri, no, i centimetri sono la passione. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Spettacolare, spettacolare. Radio 24, la passione si sente. I centimetri sono la passione.